Hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova io ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Ci sarà una grande coalizione del centrodestra, andranno a votare anche quelli che non hanno votato adesso, perché il pericolo comunista incombe sulla città di Treviso. Treviso non diventerà mai il satellite della faccia e martello. Hai capito, Davide? Treviso non diventerà mai il satellite della... No, questo l'ha detto, invece che ancora bisogna fare il ballottaggio, che vuol dire invece? Ma invece che, questo l'ha detto oggi, imbecille! Ma come imbecille? L'ha detto oggi! Ma non cambia, perché invece non ha vinto al primo turno, amico mio! Era lì partito come un alpino, ti ricordi come faceva lo Spamaldo da noi qualche settimana fa? Non capisci un cazzo! Questo mi sembra l'unica cosa che al momento si può dire su Parenzo. Sono lo sceriffo numero uno d'Italia. A Treviso nemmeno Gentilini è riuscito a passare. Aspetta, lei ha quasi 84 anni. Riesce ancora a comandare bene, no? Io faccio parte della maschia gioventù dei miei tempi. Il Vangelo secondo Gentilini dice: ordine, disciplina, rispetto delle leggi, prima noi e dopo gli altri. Davvero sceriffo, insomma. Davvero sceriffo, lo sceriffo d'Italia numero uno sono io. Beh, ho capito, Gentilini, però non sei riuscito a battere manco uno sconosciuto del centro-sinistra, ha detto con tutto il rispetto. Tu sei Gentilini, l'altro era non so nemmeno come si chiama, eppure il tempo passa anche per il leone. Ora ti fa male un dito. Vabbè, comunque se la prende con Bossi, la Lega paga la gestione di Bossi, dei suoi amici, eccetera, eccetera. Sono convinto che resterò ancora sindaco di Treviso, perché il mio popolo mi ha votato in una maniera strepitosa. Sono mancati invece il PDL, che è crollato, la Lega, che non ha dato quei risultati e sta pagando quella gestione maledetta di Bossi e amici. No, Federico dalla provincia di Pisa, Raffaele da Milano, Antonella da Brescia ci stanno aspettando, però attenzione, attenzione, perché devo mandare in onda che cosa? Devo mandare in onda Fiorello che canta Alemanno. Senti. Ora un piede ti fa. Guardo le proiezioni e sempre state, ma non so. I 5 Stelle se la prendono con i giornali, senti il candidato De Vito, i giornali che ci hanno dato pochissimo spazio, ma basta con queste ridicolaggini, basta con queste ridicolaggini. abbiamo trovato pochissimo spazio sui giornali. Ripeto, è sufficiente vedersi le ultime 60 edizioni nella sezione romana dei principali quotidiani. Quando andava bene c'era un trafiletto nei nostri confronti. Senti la Lega, Salvini, ballottaggio a Gorgonzola, Bresso, Brugherio, e se ti piace così. Ma guardi, in Lombardia abbiamo conquistato 10 sindaci subito, con percentuali del 70% in alcuni comuni vicino a Milano, in Brianza, in provincia di Brescia. Siamo al ballottaggio a Brescia, a Lodi, a Gorgonzola, a Bresso, a Brugherio, a Bareggio, a Cinisello. Siamo qui, 800 24 00 24. Non ce l'ha fatta Cicciolina, David, non ce l'ha fatta a Roma, ce l'ha fatta la fidanzata di Franceschini, ma non Cicciolina. Beh, vabbè, una cosa però drammatica per me, drammatica. Cicciolina in consiglio comunale sarebbe stata una cosa meravigliosa. Sarebbe stato stupendo Cicciolina sindaco, sì, col suo programma elettorale, come dire, vasto, no? Ti segnalo che non era candidato sindaco. Io mi sono pentita di non aver ampliato un pochettino di alcune cose sulla sessualità, insomma. Cioè in che senso? Per esempio, a me mi manca. Che le manca? Un cicciolino cinese. Un cicciolino cinese, cioè di farlo con un cinese, dice lei? Sì. Comunque Di Pietro è completamente impazzito, Senti come parla di Ignazio Marino, senti, perché ce l'ha con lui, perché non ha voluto trovare l'accordo con l'Italia dei Valori o quello che resta dell'Italia dei Valori. Ah, quello che resta. Di Pietro, una cosa agghiacciante quasi, senti. Il dottore ha detto già, basta fare una puntura e tutto passerà. Ci deve essere intorno a Marino una realtà collegiale che lo aiuti a crescere, perché sarà bravo col chirurgo, ma sta tagliando col coltello il rispetto della persona umana. Per fortuna di Marino è che di lui si pensa quel che racconta una. Io pure pensavo che fosse. Sarà un bravo medico, però con i miei confronti non ha mantenuto la parola. Scusi, e io no, a lui non l'andrei a votare. Ma se lei. Ma che ha fatto? Fu, che ha fatto? Ha soffiato, ma che vuol dire? Gasparri sul professor Becchi, che è tornato a parlare, È tornato a parlare dicendo che la situazione esploderà in autunno, che andare in TV è una cosa rischiosa perché se dico merda o vaffanculo poi qualcuno chiede la mia sospensione, che il flop era prevedibile, lui aveva addirittura consigliato a Grillo di scriverlo sul blog. Quando a un certo punto dice tutte queste cose Gasparri, mi faccio comunque più paura, ridicolo in ogni caso, sia quando ne parla sia quando non ne parla. Allora, attenzione alle parole, per poveri favore. Studenti, questo se lo poveri può risparmiare suoi. Tranquillamente. Detto, povero lei, detto semmai, suoi. Non gli studenti. Povere lei, gli ascoltatori che la stanno sentendo. Gli studenti che hanno da studiare gli esami adesso ci hanno da studiare. Vabbè, nulla di personale, per favore, anche perché mi sembra che sia. No, in realtà c'era tutto di personale, poi non si capisce perché Gasparri ha sguainato la spada e l'ha rimessa subito. E l'ha rimessa subito a posto, Siamo qui, sai Parenzo che cosa sono venuti fuori in questi giorni? Sai cosa è venuto fuori? L'esercito di Silvio. L'esercito di Silvio? Sì, tu non sai un cazzo come al solito. È il sito che arruola giovani seguaci di Berlusconi. Beh, proprio così. L'esercito di Silvio. Arruolati con noi, sì. Senti come si, con quale video annuncia la sua discesa in campo questo esercito di Silvio. Mi ricordo che c'era un avvocato e addirittura era entusiasta. Silvio era un bambino eccezionale. Ce lo portava sempre via, diceva, senta, non lasci venire, dove andava? Desiderava avere Silvio vicino e mi diceva, signor, ma questo ragazzo ha di un'intelligenza superiore, diventerà qualche cosa di grande. Hanno messo pure un video di 13 minuti in cui c'è Mamma Rosa in mezzo, l'esercito di Silvio con tanto di arruolamento, comandanti e reggimenti, il fondatore è un imprenditore che si chiama Simone Furlan. Buonasera Furlan. Buonasera Cruciani. Come Buonasera. Sta? Come sta Furlan? Molto bene, grazie. Scusi, voi, lei okay? È imprenditore di cosa? Scusi Furlan. Io lavoro nel campo alberghiero Cruciani. Nel campo, che fa? L'albergatore in sostanza? Sì, sì, sì, sì, sì. Benissimo, ma scusi, ma che, come le è venuto in mente come le è venuto in mente di creare l'esercito di Silvio? Scusi, proprio l'esercito, poi in questo periodo non è molto, sa? Ma no, ma noi siamo un esercito pacifico e questo non lo mettiamo in dubbio, ma determinato. Sì. In realtà, sa quando mi è venuta l'idea? Quando? Una sera guardando la trasmissione La guerra di vent'anni. Sì. Ho detto, ma caspita, effettivamente è vero che da vent'anni Berlusconi combatte una guerra. Sì. Tra media politicizzati, tra sì. persecuzione giudiziaria, media politicizzati, da solo. Sì. Il PDL in questo momento non lo difende perché è al governo e quindi deve mantenere questo ruolo istituzionale. Sì. Ma sarà il momento che la società civile, visto che insomma la milioni di civile, sì. che conoscono in lui, sì. scendano in campo, ci mettano la faccia e dicono, caro Silvio, noi siamo con te? Scusi un attimo, Furlan, ma Berlusconi è a conoscenza sì. di questa vostra iniziativa oppure no? No, assolutamente, ma perché bisognava metterlo a conoscenza? È una cosa che nasce dalla società civile. Ho capito, ma l'avete informato o no? Se uno fa l'esercito, scusi, se uno fa l'esercito di Cruciani, forse la cosa mi interessa, magari me lo devono dire se uno fa l'esercito di Cruciani, magari mi informano, no? Io spero che nessuno faccia mai una cosa di questo tipo, però se qualcuno venisse in mente di fare l'esercito di Cruciani, magari voglio essere informato. Ci avete mandato una missiva, una mail, sì. avete chiamato allora, Arcore o no? No, mi sono permesso di informare la segreteria del presidente, ho mandato un'informativa dicendo che stavo organizzando questa iniziativa. Con chi ha parlato? Con una segretaria qualsiasi oppure con qualcuno vicino a Silvio? No, io ho mandato alla segreteria politica di Arcore del presidente, nella sì. sua diciamo segreteria personale. Sì. Ho informato che stavo facendo questa iniziativa e che se ci fosse stato qualcosa in contrario ero a disposizione. Io non ho sentito nessuno. Per cui lui è d'accordo. Silenzio assenso del partito. Vabbè, se lei dice silenzio assenso, significa che in sostanza. Io l'ho interpretato. Lei ha interpretato così. Ma qualcuno nel PDL ha conoscenza di questo? Innanzitutto pare che scorra l'elenco degli iscritti secondo dopo secondo con una specie di contatore sul sito, o no? Sì, in realtà abbiamo un problema, Cruciani, perché circa due ore fa si è bloccato il server perché eravamo arrivati a 7600 soldati. Iscrizioni. Sì, arruolamenti sì. Il nostro server non era probabilmente pronto a una mole del genere. Sono stato chiamato. Per cui sarete a quota 10.000 praticamente se non ci fosse stato questo. Ma a questo punto io credo sicuramente sì. Parenzo, chiami tu l'ambulanza? Volevo capire ancora sull'An, che peraltro è anche veneto e quindi come dire sì. può riguadagnare parte della mia stima. Ma non c'entra un cazzo, ci sono anche veneti che fanno cose meravigliose. No, veneti, dico, no, senza nessun riferimento. Ma solo perché è veneto. Ma voglio dire, mi incuriosiva il testo. Quando lei dice nella dichiarazione che uno deve fare per aderire all'esercito, io sto facendo l'iscrizione per Cruciani adesso, ma mi hanno bloccato la. Fermati, ma che sei matto, sei. No, sto facendo la per te. Ma quando uno dice amo. Che cosa vuole, scusi? No, dico, Cruciani, se fa l'iscrizione almeno comandante di un reggimento, non semplice arruolato. Scusi se mi tocco nelle parti basse, cioè, scusi se mi tocco nelle parti basse, comandante del reggimento dell'esercito di Silvio, cioè, non è che, no, così non voglio finire, ma Parenzo, che dicevi, scusa, non ho capito. No, quando leggo dal sito, da questo arruolamento, no, online, quando lei, signor Furlan, lucido di mente, dice amo Berlusconi da molti anni, lei intende un amore che può essere anche fisico? Ma l'amore ci sono tanti significati e tanti. Cioè lei è innamorato di Berlusconi? È innamorato di Berlusconi o no lei? Sì, dell'uomo Berlusconi e del politico ecco. Berlusconi. Hai capito Parenzo? Di tutto Berlusconi sono innamorato. Di come tutto. Milioni di italiani. Di tutto, anche di delle sue leggende, no, nel campo delle donne, queste cose qui. Ma guardi, quello è invidioso un po'. Beh, come è secondario, è una parte fondamentale, la virilità, il priapismo, queste cose qua è fondamentale. Furlan, non mi dica che non è innamorato anche di questo aspetto qui. Beh, ma sicuramente Berlusconi è un leader carismatico in tutti i sensi, anche in quello. È un leader carismatico anche con le donne, dice lei, Però la cosa non capisco perché stupisce tanto Parenzo. Ce ne sono milioni in Italia come me e il fatto che stamattina. Milioni, adesso non è che. Cioè, lei si aspetta che nell'esercito di Silvio si arruolino milioni di persone? No. No, non si devono arruolare. Che numero si aspetta lei? Che numero si aspetta? Perché non tu. Guardi, io mi sono dato l'obiettivo di almeno entro 15 giorni di arrivare a 30-35.000 e per il primo mese e mezzo 100.000 persone ed è assolutamente raggiungibile. Quanti reggimenti sono in questo modo? Guardi, abbiamo già pronti 30 reggimenti territoriali. 30 reggimenti territoriali. Pronte a organizzare dei gruppi sui vari territori in Italia. Ma scusi, poi questo esercito, questo esercito di Sipio, che diavolo fa? Scusi, per la, ce lo dice dopo il traffico, la perché va lista. Bene i reggimenti, va io bene i reggimenti territoriali, ma poi che dovete fare con questi reggimenti? Che fate? Le marce? Che fate? Andate davanti alle pia, davanti ai tribunali? Non lo so, comunque, traffico. La Zanzara. C'è scritto, David, dichiaro di volermi arruolare nell'esercito di Silvio per difendere il presidente Berlusconi e combattere al suo fianco la guerra dei vent'anni. Puoi anche diventare comandante di un reggimento territoriale, basta che mandi una foto e una breve motivazione del perché ami Silvio. È una persecuzione giudiziaria senza eguali nella storia. Noi grideremo al mondo che milioni di italiani si riconoscono in lui, non lo sconfiggeranno mai, perché noi saremo sempre al suo fianco. Vuoi scrivere, Parenzo? Ma io stavo iscrivendo a te veramente. Ma non ci riesci, è bloccato il server, è inutile. Stavo facendo uno scherzo, volevo iscrivere anche il signor Paolo Flores d'Arcais. Furlan, Simone Furlan, imprenditore alberghiero, fondatore dell'esercito di Silvio. No, mi dica una scusi. Cosa, Furlan, ma tutta sta gente che lei vuole arruolare. Dai, ma sì. Alla fine, dove che cosa fate? Dov'è cioè? La caserma poi? Allora, innanzitutto noi vogliamo garantirci il fatto che il presidente Berlusconi non abbandoni il centrodestra, ma anzi si renda conto che milioni di italiani lo amano, lo ringraziano per il sacrificio che ha continuato a fare in questi anni, certo. E rimanga in campo a lottare con noi. Vabbè, guardi che se continua chiamo tre ambulanze, non una, tre ne diamo. Se continua... Però mi lasci finire il concetto. Ma non c'è nessun concetto qui, cioè non è che c'è un concetto. Quando uno fa l'esercito di Silvio non c'è nessun concetto da esprimere con l'esercito di Silvio. È amore infinito, basta, lei è innamorato di Berlusconi. Cioè lei in sono innamorato di Berlusconi, basta, ma punto. Come me tanti. Vabbè, quindi tanti, andremo poi casa per casa in tutta Italia a dirlo e dire alla gente chi è davvero il presidente Berlusconi. Cioè non ho capito, avete intenzione di andare casa per casa a fare cosa? Cioè, lei come... ha detto se facciamo le manifestazioni davanti ai tribunali. Io penso di no, preferisco invece strutturarci su tutti i territori italiani e andare casa per casa a fare quello che la politica non fa, andare a raccontare chi è Berlusconi e perché bisogna ancora oggi stare al suo fianco e lottare. Ma non venga come, a casa mia. Come faceva, si ricorda Verdone nel film quando andava a vendere le cose, quando andava a vendere le enciclopedie, che poi incontrò Manuel Fantoni e altri ancora. Lei vuole andare a vendere il prodotto Berlusconi nelle case degli italiani, questo vuole fare. E il primo che io porterò con me è Parenzo viene con la telecamera, con la telecamera, così con la sputtana per tutta la vita, questo è il punto. Al io massimo... vengo e porto con me una foto della vera nipote di Mubarak. Scusi un attimo, beh, io è interessante. Scusi un attimo, ma lei ha a casa sua nel suo comodino una foto di Berlusconi o no? E secondo lei può mancare? Ma sul comodino? È come un santino con il lume sempre acceso. Ma no, ma dai, non ci ma credo. Ma lui è morto però. Ma no, scherza. Ma no, ma dai. Anche in ufficio io al posto della foto della moglie e del mio cane o quella di Silvio. Vabbè, Furlan, non si renda così ridicolo. Siamo, cioè, siamo già alla follia, cioè siamo oltre la follia questa cosa qua. Ma no, ma guardi, lei non capisce. Scusi, che centinaia di migliaia di persone la pensano come me. Ma lei si metterebbe in mezzo... Lei. No, no, ma mettiamo che ci sia... Cioè, voi volete anche fungere da guardia privata a Berlusconi? No, abbiamo in queste ore un sacco di persone che si occupano di sicurezza che ci stanno contattando per dirci che volontariamente, gratuitamente, verrebbero ai cortei di Silvio per permettergli di ritornare a fare i comizi. Ah. Questo sì. E perché non fate no, io una... non voglio organizzare sicurezza, io sono pacifico. Scusi, ma se lei vedesse qualcuno che spara addosso a Berlusconi, si metterebbe in mezzo? Assolutamente sì. Cioè lei prenderebbe una pallottola al posto di Berlusconi? Io sarei onorato di fare da bodyguard a Silvio Berlusconi. Cioè certo prendere sì. una pallottola al posto di Berlusconi? Sì, assolutamente. Ma Furlan, su, ma qui siamo alla medicina però, cioè qui siamo alla patologia, non è possibile, cioè non è possibile. Uno può essere innamorato, ma scusi, ma nel PDL chi è che è in contatto con voi? Nessuno, del PDL. Con una persona, ci sarà una persona? No, no, nessuno. Io conosco alcuni onorevoli perché li ho conosciuti nell'ambito del mio lavoro negli anni, ma non sono in contatto con nessuno. Non è in contatto con davvero? Nessuno? A lei ha sempre... Il capo di Stato Maggiore sostanzialmente. Lei cosa fa in questo esercito? Che ruolo ha lei? Il capo di Stato Maggiore che fa? Beh, io sto cercando di fare la persona che mette assieme tutti coloro che vogliono lottare per Silvio Berlusconi. Sì. Poi metteremo tutta la struttura a disposizione del presidente, se vorrà utilizzarci siamo a sua disposizione. Scusi Furlan, ma non pensa che Berlusconi si difenda bene da solo? In fin dei conti sembrava spacciato, adesso è di nuovo al governo, che bisogno c'è di fare l'esercito di Silvio? Scusi. Ma in realtà secondo me è importante, proprio è anche importante, contro quelli come voi che continuano a trovare aberrante queste mie affermazioni. Ma no, aberrante, per carità. È importante dare voce patetico, a centinaia di migliaia, forse milioni di italiani che la pensano come me ma non hanno l'occasione di dirlo, ed è il motivo per cui ci sono bloccati i server, perché vuol dire che c'è una valanga di gente che la pensa come me. Ah, c'è una valanga di gente, dice. Ma dall'estero pure, Guardi, sono stato contattato da una TV giapponese oggi pomeriggio, ho detto che rimandiamo ai prossimi giorni. No, ma dall'estero dico, scusi Furlan, dall'estero dico gente che si vuole scrivere da fuori Italia, vabbè, evidentemente ci si può scrivere. Guardi, non glielo so dire, non lo so. Le posso rispondere nei prossimi giorni. Ma molti, scusi Furlan, ma molti nel PDL, secondo lei, rispetto a quello che lei vuole fare, sono delle papemolli, sono degli smidollati? Non ho capito, mi scusi. Molti nel PDL sono degli smidollati rispetto a quello che volete fare voi, difendono poco Berlusconi? Ma io credo che è stato vergognoso vedere che nel PDL stavano abbandonando tutti Berlusconi, quando hanno capito che Berlusconi era di nuovo il cavallo vincente sono rientrati nelle fila. Quindi io credo che Berlusconi abbia bisogno di gente che invece combatte per lui e non ha problemi a dichiararlo. Nel PDL sono troppi politici. Quante canzoni conosce di quelle dedicate a Silvio? Ma guardi, onestamente, non essendo mai stato iscritto al PDL, nemmeno l'unico single che conosco è Meno male che Silvio c'è. Quello le piace, Sì, carino, dai. Carino, La conosce bene quella canzone? No, devo dire la verità. Il ritornello. Come fa? Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Com'è che fa? La canti con noi, che a noi piace moltissimo, lo sa, no? Ma io non sono... A noi piace moltissimo, senta. In questo sogno... Presidente, siamo con te. Vada Furlan, fondatore dell'esercito di Silvio. Meno male che Silvio c'è. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Chiamate l'ambulanza, Parenzo. Due ambulanze, due. Mi ha dato un'idea. Cosa? Devo metterla sul sito invece questa canzone. Devo chiedere all'autore. Ma voi già sul sito avete fatto, avete messo Mamma Rosa, avete messo Mike Buongiorno. Una roba. Come si fa a non avere rispetto per Mamma Rosa? Ma ho capito, ma Parenzo, io non so come rispondere, aiutami tu. Metta anche un editoriale di Travaglio. Non apprezzate l'amore, ragazzi. Ma Travaglio per lei, chi è l'amore? Travaglio per lei chi è? Ma Travaglio è una persona molto fortunata che grazie a Silvio Berlusconi è diventato Travaglio. Giornale Radio. Il Vangelo secondo Gentilini dice: ordine, disciplina, rispetto delle leggi, prima noi e dopo gli altri. Lo sceriffo d'Italia numero uno sono io. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria del letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? C'è qualcuno nel centrodestra, l'abbiamo detto anche ieri, caro Parenzo, che se la prende per la quasi sconfitta di Roma, c'è sempre il ballottaggio, per carità, che se la prende con il derby. Cicchitto ha inciso anche sul l'astensionismo, in parte l'aver sommato anche nella stessa giornata anche una partita di calcio così sentita e che ha bloccato tutto un pezzo della città. Ma di che stanno parlando? Cioè, ma tu ti rendi conto il traffico che ha bloccato un pezzo della città? A parte guarda, che sei veramente un cretino, guarda, il derby ha fatto perdere Alemanno, che l'ha fatto andare a ballottaggio, guarda. È stata colpa di Rutelli che ha fissato il derby in quei Ma non c'entra niente Rutelli. È stato Ignazio Marino, è stata colpa di Marino. Pagato dai giudici hanno fissato il derby in quei giorni, è una vergogna, guarda. E sei un cretino te. Ho capito, signor Cicchitto, però il problema non è questo. Guarda, non farmi subito incazzare alla zanzara voi della Confindustria perché avete remato contro, Ma il problema fondamentale è che si poteva votare anche lunedì. Le faccio presente, dottor Guarda, Cicchi. La vittoria della Lazio ha messo in seria crisi il governo, te lo dico. Cioè, lei sostiene che siccome ha vinto la Lazio, molti romanisti lunedì non sono andati a votare? Guarda, è stato Ignazio Marino con un combinato distorto di Giorgio Napolitano. E poi c'è stato ancora un altro intervento. Guarda, è veramente grave, guarda. E tu sei un cretino comunque. Che carogna che siete, vabbè. Ma che mondo. Gentilini pensa che ci sia un pericolo comunista basta, su Treviso. No, io lo voglio risentire, perché il pericolo comunista su Treviso è eccezionale. Ci sarà una grande coalizione del centrodestra. Andranno a votare anche quelli che non hanno votato adesso, perché il pericolo comunista incombe sulla città di Treviso. Treviso non diventerà mai il satellite della faccia e martello. Beh, adesso che Treviso possa diventare, per la vittoria di un sindaco del Partito Democratico, non del Partito dei Comunisti o addirittura di estremisti rossi, addirittura la città della falce e martello. Adesso, caro Gentini, va bene la propaganda politica, però mi sembra francamente un po' troppo. Sentiamo come la prende il TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Grillo dopo il flop, chi ha votato PD e PDL ha scelto lo status quo, i partiti condannano l'Italia, ma sul web fioccano le accuse alla sua strategia, sospiro di sollievo del PD ma sul risultato pesa l'alta astensione. Bersani, Grillo non ha saputo coniugare governo e cambiamento, Epifani è ospite al TG3, nel PDL Cicchitto chiede una riflessione sul voto, intanto Nitto Palma riaccende la polemica con una nuova legge contro i pubblici ministeri che spacca anche il partito. Marini Alemano già in corsa per il secondo turno, il quadro dei capoluoghi, 5 subito al centro sinistra che è in testa negli 11 ballottaggi. Legge elettorale, accordo ancora lontano, domani mozione per le riforme costituzionali, le modifiche al Porcellum dovranno essere condivise. Corte dei conti, basta con l'austerità, la crisi ci è già costata 230 miliardi, Saccomanni, prima che all'IVA pensiamo agli investimenti. Migliaia di persone ai funerali di Fabiana, uccisa dal fidanzato, il ministro idem, l'Italia è con lei, alla Camera si è unanime alla convenzione contro i femminicidi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Piero Marrazzo, l'ex governatore del Lazio, in tribunale. Negli anni passati ho avuto sporadici incontri con transessuali, se ne contano sulle dita di una mano, qualche volta si è consumata della cocaina che non portavo certo io, non ho mai usato l'auto di servizio per questo tipo di incontri, né ho mai portato trans negli uffici della regione. Si potrebbe dire, ci mancherebbe pure altro che uno porta i trans o prostitute negli uffici della regione. Siamo qui, 800 24 00 24, Fabio da Perugia, buonasera Fabio. Buonasera. Io ho chiamato perché volevo iscrivermi all'esercito di Silvio, siccome il server è bloccato, volevo sapere se voi potete aiutarmi, perché... Beh, la mettiamo in contatto noi siamo molto vicini, almeno Parenzo è molto vicino a quei personaggi lì, sono veneti. Siccome io avevo avuto questa idea brillantissima, secondo me, sì. Siccome sono un musicista, farei una banda di 150 elementi. Sì, la banda dell'esercito, beh ottimo, ci vuole, no Parenzo? E ogni volta che serve per Silvio la banda, anche per andare a suonare sotto la casa della Boccassini, noi... con la banda possiamo fare un servizio molto utile alla causa di Silvio. Capito, Parenzo? Volevo... Certo, sì, no, mancava. La banda, siccome non ne ha parlato il signor Furlan, io volevo proporre questa splendida idea. Ma in quanti siete per la banda? Ma io ne ho almeno 150, tra allievi e ex allievi, secondo me arriviamo a un numero consistente. Poi dopo naturalmente apriamo anche... online, chi vuole aderire, faremo una banda più grande d'Europa. Beh, diamo tutte la banda più grande d'Europa. Diamo tutte le coordinate, Fabio, non si preoccupi. Ci pensiamo noi. Mi raccomando, ti tengo, anche perché potrebbe essere anche uno sbocco di lavoro, dato che il mondo musicale in Italia è un po' in crisi, invece così possiamo anche rilanciare l'occupazione. certo, della categoria. Assolutamente. Scusi, lei che quale tipo di canzoni canterebbe con la sua banda per l'esercito di Silvio, appena formatosi peraltro? Naturalmente tutte le canzoni di Silvio, lì, il repertorio, e poi dopo coinvolgere anche i compositori per scriverne delle altre, magari con le parole del signor Furlan, dato che mi sembra che abbia le idee molto chiare su come difendere Silvio, io aprirei anche a nuove composizioni e avere un repertorio vastissimo. Molto bene, Parenzo. Su ogni argomento scrivere una canzone, secondo me è la svolta. Sì, è strano perché il caldo non ha ancora colpito le grandi capitali italiane, quindi è strano. Cioè, è strano cosa dici? No, è strano questo fenomeno, no? Se no uno attribuirebbe queste chiamate a un colpo di sole, giusto? Sì. A un eccesso di caldo. Sì. D'estate si moltiplicano i casi di gente così che chiama, che dice cose come questo signore. Ma in realtà non possiamo dare neanche la colpa alle condizioni atmosferiche, purtroppo. Alberto da Milano, buonasera Alberto. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Che bello, ci mancava solo l'esercito di Silvio, cosa non si fa per avere un po' di visibilità in questo paese. Vabbè, fa niente. Volevo fare un intervento io su Giuliano Ferrara, sulla dichiarazione che ha fatto, però prima volevo dire una cosa a Parenzo. Sì. Parenzo, per quanto riguarda il caso Cabobbo, se ne faccio una ragione, ha ragione Cruciani, cioè non c'è proprio, non ce n'è, ha ragione, io non sono mai d'accordo con Cruciani, ma stavolta ha ragione, questo non è che è per il fatto che ha picconato tre persone, ma questo non doveva picconarle solo per il semplice motivo che non doveva avere i piedi sul suolo italiano, punto. Ma di cosa parla? Scusa. Vabbè, andiamo avanti, Alberto. Ecco, allora volevo parlare delle dichiarazioni che ha fatto, come si chiama, Ferrara, sì, stamattina le ho lette, no? Che si augura un'alba dorata anche in Italia. Cioè, qua non so se è una provocazione o se lo pensa veramente. Se è una provocazione ci sta. Se lo pensa veramente, qua non ci vuole la puntolina, ci vuole un TSO subito da ricovero, perché insomma Alba Dorata, ho letto un mese fa su un sito, insomma le dichiarazioni che ha fatto, parlava di bruciare gli immigrati, di scuoiarli con la pelle, fare sedie, poi con farne delle saponette praticamente, ma da non usare sul proprio corpo perché possono infettare, ma per lavarle, cioè robe allucinanti. Sì, guardi che Ferrara ha fatto una provocazione, cioè fondo l'alba dorata italiana per fermare Grillo. Ecco, io dico, se è una provocazione mi può anche star bene, voglio dirlo, però se lo pensa veramente è trattamento sanitario obbligatorio, perché si va a rileggere quello che ha dichiarato Alba Dorata, cioè roba da accapponare la pelle, voglio dire. E poi non è che sono quattro gatti, in Grecia hanno il 7% queste, non è che sono quattro sfigati che non contano un cazzo, in Grecia contano. Io mi auguro che in Italia non arrivino mai. Scherzava. Francesco da Roma, buonasera Francesco. Buonasera, io devo dire solo una cosa. Sì. Che secondo me Berlusconi bisognerebbe farlo re. In che re senso? D'Italia, anzi forse imperatore. Perché? Perché sì, perché secondo me se uno lo fa imperatore, lo mette ad Arcore, sì, con tutte quante signorine intorno, con i paggetti, i baronetti, tutto quanto, uno gli deve condonare tutte le pene, tutto quanto, secondo me si leva dalle palle. Lo fai re d'Italia e te lo levi dalle palle. Ho capito, ma bisogna avere un regno per fare il re, eh? Beh, ma consideriamo il regno di Arcore, per esempio, no? Che ne so, facciamo un regno, lo dotiamo del potere temporale, sì, del suo regno. Dunque lo rendiamo immune dai processi, dalle cose. Lo rendiamo immune a tutto. Deve essere immune a tutto quanto proprio. Lo rendiamo immune a tutto, ma anche alla morte lo rendiamo immune. Beh, quello è un po' complicato. Come? Quello è un po' complicato, direi, no? Vabbè, ma noi lo rendiamo immune, che ce frega? Cioè, nel senso, noi gli diamo pure quello. Cioè, noi lo tocchiamo, capito, che ne so, della sfera che può governare, che ne so, governa, capito, domani voglio il sereno, capito? Ah, che nel mio regno domani ci sia il sereno. Secondo me sarebbe bellissimo. Un regno di Arcore per liberarsi di Berlusconi. Sì. Secondo me sarebbe una cosa eccezionale. Bene, un altro Francesco da Reggio Calabria. Buonasera. Allora? Ma io chiamavo solo per dire una cosa. Sì. Radio 24 è una radio che reputo molto seria. Sì. Io l'ascolto continuamente. Ecco, l'altra tirata. La tirata di questa sera ci mancava, la tirata. No. Il programma poi che della serata è una cosa che spesso mi disgusta. Sì. Perché voi non capite che quando buttate, tentate di buttare fango su Berlusconi, fate altro che offendere milioni di italiani che ma noi non buttiamo fango su nessuno, noi non buttiamo fango su nessuno, Francesco. No, non tanto lei, il signor Paparanzo, non so come si Paparanzo chiama. Non l'avevo mai sentita, non è male Paparanzo. Il suo collega, sì. Dico che spesso è di una volgarità incredibile, sì. Non degno di una trasmissione come questa, che è molto professionale, molto seria. Sì, molto infatti io sono invece, non dico mai nulla, io sono sempre... No, lei ogni tanto lei ci mette pure un po' di sale, però il suo collega è... Sì, Paparanzo, comunque, non è questo, non allora... è questo... Ecco, quando voi buttate fango su Berlusconi, ma quale fango? Ma che milioni di persone votano una persona che reputano capace, e allora... seria e per bene. Ma lei si rende conto che è arrivato anche l'esercito della libertà? Noi non dovremmo per caso sfottere. Noi non dovremmo per caso sfottere chi fonda l'esercito della libertà? Senta, quando si scherza, si sfotte, si prende in giro. Fino a qua ci siamo, perché è chiaro che ognuno di noi ha il modo di pensare. Però quando si va nel volgare, e spesso il suo collega Paparanzo, non lo so con precisione come si chiama, ma ma se lei non sa nemmeno come si chiama, abbiamo la borsa, torniamo subito. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La Zanzara. Salice. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Ha preso una trentina di voti, la cicciolina, Solo 30? Sì, una trentina, una cosa del genere. Pochi, molto pochi. È entrata invece Lady Franceschini. Vorrei conoscerli tutti questi 30. Non ho fatto un collegamento tra cicciolina e Lady Franceschini, Ecco, appunto. No. Già cominciano a massacrarmi, non ho fatto nessun collegamento. È entrata la fidanzata di Franceschini, la bella Di Biase, non ce l'ha fatta purtroppo, secondo me cicciolina, altrimenti ci saremmo divertiti come matti, Cioè, una che ha fatto sesso anche con quanti uomini aveva fatto sesso? 2000 mi sembra, no? 2000 uomini. Quando ero porno diva di un trentina di anni fa, è ovvio che ho fatto sesso con svariati donne e uomini, però insomma non l'ho mai contati, saranno anche oltre 2000 e passa. Oltre 2000, l'autoerotismo ormai, perché non fa sesso da 2 anni, è appagante. Effettivamente Parenzo credo che sia molto favorevole all'autoerotismo, no? O sbaglio? David? Sì, ma stai ascoltando oppure stai facendo i cazzi tuoi? No, per capire. No, sto ascoltando, ma non rispondo a domande che attengono, come dire. Sì, vabbè. Però fatti un po' di, diciamo, prima della trasmissione, vuoi farti qualche cosa, una tirata di cocaina, qualcosa per tirarti su? Al mio privato. No, d'accordo, ho capito, però se devi fare la trasmissione in cui rispondi in questo modo, fatti un colpo di cocaina, una botta di cocaina alle 18:30, così almeno siamo tutti più tranquilli. Ma per questo lo pagate voi per fare trasmissione? Lo paghiamo, però Senti, l'autoerotismo ha il suo fascino, credimi. Oh, secondo Andrea Scanzi, c'è un orgasmo politico di Repubblica sul flop di Grillo. Ed effettivamente oggi c'è un De Profundis da parte di tutti i giornali, che non considerano una cosa: nelle elezioni locali, i movimenti carismatici, in parte era accaduto anche per il centrodestra nel passato, cioè accusano sempre qualcosa, accusano sempre delle perdite. Dunque, piano piano, prima di suonare le campane a morto per Grillo. Io sono convinto che domattina l'entusiasmo, ma oserei dire anche l'orgasmo politico, che ci sarà sulle pagine di Repubblica, della Stampa, del Corriere della Sera, sarà inarrivabile. È vero, ok. Siamo qui, Marco, dalla provincia di Pesaro. Buonasera, Marco. Ciao Cruciani, Giuseppe, come stai? Tutto bene? Bene, bene, dimmi. Ma mi hai riconosciuto chi sono? Ma che ne so, Marco, chi sei? Dai, sono Valentino, dai, Valentino Rossi. Sì, Valentino Rossi, mio nonno. Curva. No, adesso io assieme a Cruciani volevo, cioè assieme a Parenzo, volevo farti dire una cosa. Sì. Perché l'altro giorno sono caduto in curva, capito? Una scorreggina l'ho fatta perché ho avuto anche paura. No, volevo dirti, te dovresti dire, ho votato Grillo ma mi sono sbagliato. No, no, non lo dico, non lo dico. No, no, dai, lo devi dire. Ma dai, non dai, lo dai. Dico, Marco, non lo dico, non lo dico. Perché? Per quale motivo? Ma perché non lo dico? Perché io lo dico solamente, non lo dico mai, mi sono sbagliato. È una follia dire mi sono sbagliato, ho votato quello, mi sono sbagliato. Che senso ha? Ma no, ma non è questione di essere Fonzi o di essere infallibili, è molto semplice, io faccio i conti con il mio voto, quando si tornerà a votare, punto, non si può giudicare. Capito, si una può cosa dopo tre mesi, nella dai. Vita sì o no? Ma certo che si può sbagliare, ma che vuol dire? Non è e che allora? Ma il voto non si sbaglia mai, quando uno vota in quel momento, significa che in quel momento si sentiva in quel modo. No, per favore, Cruciani. Non scusi Marco, fare. Quando lei si è fidanzato con qualcuno, no? Metti che sì. lei dopo dice, no, mi sono sbagliato, è meglio che non mi fidanzavo con questa persona. Il 28 settembre sono felicissimo. Ma lei fa una grande cazzata. No, no, no, le palle. Io invece mi sposo il 28 settembre e sono felicissimo. Se vuoi te lo faccio dire anche da Tremonti. Come lo dice Tremonti? Per favore, Cruciani, non mi puoi dire questo. Io mi sposo. No, Marco, non va bene, non va bene, non va bene. Lei ci prova, lei ci prova, ma non va bene l'imitazione, non va bene. Occhio che stiamo degenerando, Lo so che stiamo degenerando. Però Parenzo dovrebbe farti dire questa cosa. Ho votato Beppe Grillo e mi sono sbagliato. No, no, non lo dico, non lo dico. Sono tentato. Sono tentato, ma non lo dico. Si riprende Parenzo, lo sento un po' moscio oggi, lo sento molto moscio. Moscio è dire poco, se è settimane che è così, è settimane, cioè, lasciamo perdere, ma che tempo, lasciamo perdere. Ma che moscio? Sì, no, Roberto da Piacenza, Roberto, buonasera. Buonasera. Dica. Signor Cruciani, senta, no, funziona quello che ho sentito un'oretta fa, penso. Un'oretta ma non c'è problema, lei dica, non dica un'ora fa ho sentito, vabbè, ho fatto, dai, vada. Allora, no, uno del Movimento 5 Stelle ha detto che non hanno trovato spazio sui giornali. Sì, letti, una stronzata ha detto, su, una stronzata. Sì, una stronzata. Ma anche perché non ci vogliono andare loro in televisione. Infatti, questo è quello che dicevo io prima anche alla sua collega, che secondo me sono proprio loro che hanno deciso di seguire questa linea. E adesso ne pagano, cioè ne pagano le conseguenze, perché poi stiamo parlando anche di politica, non stiamo parlando di vita o di morte. E no, nulla, era soltanto per dire quello, in più anche perché mi sembra che stiamo un po' andando in un periodo di, come diceva Serge Gainsbourg, in decadenza. Come diceva? Serge Gainsbourg, sì. Un cantante famoso. Sì, come no, certo. Che diceva, ecco. Scusi? La sua famosissima, una delle sue famose canzoni, la Decadence, che era un ballo, sai, che si faceva non fronte a fronte, uomo cioè e noi donna. Saremo andando verso un periodo di decadenza. Verso di decadenza, ma non in quel senso, sai com'era il ballo della Decadence? Sì. Era quello che l'uomo bruciava da dietro la donna, e quindi una posizione abbastanza non normale, no? Sessualmente parlando. No, e non, quindi, ho capito bene, non ho capito bene. Secondo me andiamo in un periodo in cui ci inculeremo uno con l'altro. Ecco qua, scusami per la parola, ma... Lei dice, Ma no, dico che siamo in un momento così, giustamente bisogna andare a votare perché qualcuno deve governare, i problemi ci sono come nella vita normale. Cioè lei, come, lei la pensa come Becchi che dice, mitico professor Becchi, la situazione esploderà in autunno. Il mitico Becchi. E la situazione in autunno, la situazione sociale sto parlando, esploderà. Amen. Scriva pure Repubblica domani che mi caccino dall'università italiana. Sì, lo sa, esploderà. Però cosa? Antonella da Brescia, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera, allora io ero prenotata per ieri sera, ma il mio intervento doveva seguire l'intervento di un altro ragazzo che mi aveva preceduto e che parlava della problematica. Antonella, a me di quando lei doveva intervenire, non me ne frega niente, sì, vada, ho capito, vada al punto. Ascolti, e basta. Il punto, no, il mio argomento è sicuramente esula molto da tutte le cose che avete parlato oggi, perché stasera che sono molto meno drammatiche, volevo portare così un po' la riflessione del problema. Ma non c'è nessuna riflessione, ma qui non c'è nessuna ragazza, l'ultima, questa di 16 anni, che è stata praticamente a me dispiace molto, ma a me della questione del femminicidio, di ragionare sulla questione del femminicidio, non me ne può fregare di meno, lo capisci o no? Antonella, a me non uomini, ma non me ne frega niente a me del femminicidio. Ma lo so, non mi interessa, vado a sentire il dibattito alla Camera, vado a sentire una discussione da un'altra parte, non me ne frega niente, non me ne importa, non me ne può fregare di meno. Non ho letto una riga. Ci sono le leggi, punto e basta, le vogliono rafforzare, rafforzassero. Il resto non mi interessa. Ovviamente non è che sono a favore della gente che ammazza le donne, figuriamoci, io sono contro anche a dare uno schiaffo a una donna, oggi l'ho sentito dire da qualcuno. Le donne, anzi, Giordano Bruno Guerri questa mattina su qualche giornale ha scritto: le donne dovrebbero rifiutarsi di prendere anche uno schiaffo. Per me la discussione finisce lì, tutto il resto è fuffa, chiacchiere inutili. Oggi alla Camera, per ratificare non so quale convenzione che non servirà a un cazzo, hanno perso non so quante ore di discussione, applausi, finiranno sui giornali, cose inutili. Inutili. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le cene. Giovanni dalla provincia di Biella, buonasera. Buonasera, signor Cruciani, dottor Cruciani. Dica. Io purtroppo l'ho sempre chiamata l'erede di Francesco Maria Arouet, che era un certo signor Voltaire, se non vado errato. Sono Giovanni d'Alessona, sono un ex ufficiale dell'esercito, attualmente non fa più nulla, però sarei disponibile per il comando di una compagnia del signor Furlan. Sì. Però a patto, una condizione. Signor Furlan, che tra l'altro ha anche un nome piuttosto inquietante, perché signor Furlan è... questo lasciamo perdere. Cognome inquietante, Furlan, mi ricorda qualcosa. Furlan non inquietante. Mi ricorda Ludwig, qualcosa del genere. Comunque, vabbè, Giovanni, allora... A patto una condizione. Che non si trasformi in un esercito della salvezza, naturalmente, la safety army famosa. Ecco. E tutto qua. Giovanni, lei è un ex ufficiale dell'esercito, ma pensi a stare... Signor settimo reggimento alpini. Sì, settimo reggimento alpini. Pensi a stare a riposo, a stare tranquillo. Non, ma io sono tranquillissimo. Non pensi al coso, non pensi all'esercito di Silvio, perché è una buffonata, cioè è una buffonata inaudita, capito? Lo capiremo. Va bene, grazie. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Oh, di nuovo la zanzara, di nuovo la zanzara, dopo non so quanti mesi in cui c'è stata la vicenda delle pari opportunità e poi il cambio con... la pubblica amministrazione, la funzione pubblica, come diavolo si chiama, è tornata tra noi, senza cane perché non è con noi in studio, Michela Biancofiore, buonasera, ciao. Buonasera come a voi, stai? Non si tratta di mesi, guardate che sono passate solo 3 settimane dal cambio delle deleghe. Lo so, però noi lo sai, mancavo, che se non vieni, ammettetelo, vi mancavo, lo sai, so, che lo so. Se non vieni tra di noi c'è qualcosa che non funziona. È vero, me lo dicono in molti, che sono stata troppo quieta in questi ultimi ma come giorni, mai? Come mai? Ma semplicemente perché mi sto ambientando al ministero, credo che uno debba prendere con serietà il nuovo mestiere, quindi... Ma tu che sapevi di funzione pubblica? Non sapevi niente di funzione pubblica, diciamo la verità. No, lo sapevo invece perché dal 2001 al 2002 sono stata consigliere proprio in questo ministero del ministro Frattini. Quindi quanti giorni di funzione? Parenzo non ha ancora imparato dopo anni che mentre parli tu non può parlare, però lasciamo perdere. Parenzo, vabbè, dimmi. Vabbè, ma tanto vi conosco. Sì, sì, Parenzo. No, ma perché se no intervengo, ma voglio chiedere... alla onorevole Micaela Bianco, ma quanti sono i dipendenti pubblici, scusi? Questa è una buona domanda, ancora non lo so, sto studiando, sono tanti però, basti pensare che soltanto nelle due province autonome di Trento e di Bolzano sono 44. No, però scusi, lei come fa a non sapere quanti sono? Come fa a non sapere quanti sono i dipendenti pubblici in Italia? Non lo so ancora quanti sono i dipendenti pubblici. Ma è l'unica cosa da sapere? No, non è vero che sono perché ci sono tanti precari, non è vero, non è semplice saperlo, stiamo facendo i conti proprio in questi giorni, perché ci sono tanti precari, ci sono tante persone ovviamente a tempo determinato. Certo, ma scusi, ma i fannulloni ci saranno, sì? Ma i fannulloni ci sono dappertutto, non soltanto nel pubblico impiego, anche nel privato. Ah, non c'è dubbio, quello. Guardi, in politica è pieno di fannulloni che si vendono bene, poi. Però mi scusi, è vero, io nel privato ne conosco parecchi, anche intorno, anche da queste parti, insomma, no? Nel luogo, in quello che dovrebbe essere il tempio dell'industria, il tempio della produzione, invece ci sono una marea di fannulloni, ma non è che parlo della radio, in generale. Certo, pieno di fannulloni, sono circondato da fannulloni, però c'è una buona quota. Ma ribadisco, purtroppo la voglia di lavorare non appartiene molto a questo mondo. Ecco, ma lei già ha notato dei fannulloni nella pubblica amministrazione? Sì, l'avrà visti all'opera. Verità, al momento no. Nel passato sì, però. Negli uffici di diretta collaborazione dei ministeri si lavora e si lavora anche tanto. Poi non so se è a discesa, ovviamente. Ma secondo lei quanti sono tra gli impiegati pubblici, quanti sono i fannulloni secondo lei? Una percentuale, così. Quella... Ma sono in percentuale quanti sono nel resto della società, non cioè, saprei quantificarlo percentualmente, ma sarà una grande maggioranza, una grande parte, come anche nel resto della società. Purtroppo di solito in tutti i consessi sociali ci sono dei fannulloni. Beh, diciamo che nel pubblico impiego devo dire che abbondano però in Italia. Questo è un luogo comune secondo me. Io ho visto tanta gente, sono tanti anni che frequento i ministeri per esempio, ho visto tanta gente che lavora e lavora anche alacremente. Questo è veramente Ma qual è il posto nella pubblica? Perché guardi, io particolarmente mi occuperò proprio di un settore nuovo che abbiamo un po' pensato con il ministro, che riguarda il portare le nostre best practice, cioè la nostra il migliore aspetto della nostra pubblica amministrazione nei paesi post conflict, cioè lei ha detto, ha bestemmiato due volte, ha detto due espressioni inglesi, una cosa pazzesca. Però scusi un attimo, secondo lei però per sottolineare che invece la nostra pubblica amministrazione è anche delle eccellenze, santo Dio, e quindi noi non dobbiamo come italiani sempre sparare. Ma qual è il posto secondo lei? In altri paesi non accadrebbe, certo, qual è il posto secondo lei nella pubblica amministrazione italiana dove si concentrano, cioè i fannulloni sono più nei ministeri o negli enti locali? Negli enti locali. In alcuni livelli degli enti locali sicuramente, anche nei ministeri ci sono insomma delle bravate che vanno ancora un po' sistemate. Ma bisognerebbe qualcuno che esce dai garage per evitare i tornelli, tutto si sa, e dovremmo metterci, come dire, assolutamente a guardare. Ecco, per esempio, una cosa scandalosa, non trova scandaloso dopo la cosa delle Iene che al Senato, dove pure guadagnano un sacco di soldi rispetto agli altri impiegati pubblici, al Senato, dove è un'amministrazione autonoma, e alla Camera ovviamente, ci sono stipendi nettamente superiori. Non bisognerebbe rendere tutti uguali questi stipendi? Assolutamente sì, io addirittura, vedi, mi seguite poco, un paio di settimane fa appena insediato ho fatto un'agenzia che è stata molto apprezzata dal ministro D'Alia, dove ho detto che innanzitutto bisognerebbe partire, perché giustamente il Presidente Letta ha tagliato gli stipendi dei ministri e dei sottosegretari. Però guardi, onorevole Biancofiore, non sentiamo nulla, adesso cerchiamo di riprendere la comunicazione. Come non sentite nulla? Io adesso sento bene. Ah, ecco, chiedo scusa, mi seguite poco ultimamente evidentemente. Perché? Però, che è successo? Perché la settimana scorsa ho fatto una serie di dichiarazioni che sono molto piaciute tra l'altro al Ministro della Funzione Pubblica, nella quale ho detto che partendo, anche se le amministrazioni di Camera e Senato sono autonome, partendo dai Presidenti di Camera e Senato che si sono tagliati solo una parte della loro indennità, ma non sono portati a prendere lo stipendio come parlamentari semplici, e ovviamente a discesa dobbiamo andare a pescare su tutti gli stipendi delle altre, dell'alta. Cioè, secondo lei un dipendente della Camera e del Senato è assurdo che guadagni? Mi spiego, rispetto alle altre amministrazioni indubbiamente. Allora, mi spiego, giustamente il Presidente Letta, dico giustamente perché dobbiamo dare un esempio, ha tagliato gli stipendi a tutti i ministri, a tutti i sottosegretari. No, noi non abbiamo l'indennità, benissimo, ma questo deve valere per tutto il sistema Italia, deve valere per gli assessori regionali che sono anche. Sì, va bene, ma lei dove si trova adesso? Onorevole Biancofiore, dove alla si trova? Pubblica, no, perché c'è il telefono che fa delle bizze pazzesche, ogni tanto si sente, questo ogni tanto mi dispiace molto, sono dentro la funzione pubblica a Palazzo Vidoni. Lo sa che i telefoni là dentro ancora non hanno sono controllati. Non hanno messo no. Senta, ma è possibile che per esempio i dipendenti pubblici non paghino mai? Cioè non sono mai, no, è difficilissimo licenziare, bisognerebbe facilitare un po', no? Beh, non è così vero, sì, bisognerebbe assolutamente innanzitutto rifare la legge Frattini sullo spoil system. No, ma anche licenziare più velocemente quando uno fa un errore, o no? Questo vale per tutti, questo vale nel pubblico e nel privato, dovrebbe valere nel pubblico e nel privato, sono assolutamente d'accordo, ma è anche vero che è un po' troppo facile prendersela con gli amministratori. Ma adesso lei è diventata buona da quando è diventata sottosegretaria. No, non sono per niente buona, anzi, tutt'altro, appunto, andate a vedervi le mie dichiarazioni di due settimane fa, sono state parecchio dure, insomma, ho detto che bisogna abbassare gli stipendi ai dirigenti per poter fare la rivalutazione annua invece alle fasce più basse. Quindi, senta, ma al ministero ce lo porta il cane? Avete già letto l'Espresso? No, non ho letto nella nulla. Mia stanza. D'altronde io non sono ricca, non ho colf a casa, e quindi avendo un cucciolo di 6 mesi vogliono tutti gli animalisti e ben pensanti di questo paese che io abbandoni un cucciolo dalla mattina alle 8 alle 10 della sera. Pughi mia, dove sei? Pughi, fammela, me la faccia sentire, mi manca la mitica Pughi che ha cantato. Non la posso, Paghi, non Pughi. Paghi, vabbè, uguale. paghi, non me la posso far, non mi posso far parlare, anche perché è abbastanza raffreddata. Ma perché capato, ma anche i cani hanno la tosse, l'ho portata a Bolzano e c'erano 2 gradi, e purtroppo. Ma che l'ha portata a fa Bolzano? Perché non l'ha lasciata un po'? Sempre sta con me, ribadisco, non essendo io ricca e non avendo dipendenti che mi seguono a casa e via discorrendo, il cane non può che stare con me. Ma che ha fatto l'Espresso? Hanno fatto le sue foto in ufficio con Paghi? No, non hanno fatto nessuna foto perché non c'è niente da fare foto, non c'è nessuna norma, io ho chiamato il Ministro della Sanità, è nel mio ufficio, che è un ufficio politico istituzionale, il cane non mette piede all'interno del Ministero. E beh, da qualche parte entrerà per andare al Ministero, sta Paghi? In una borsa mia personale. È cosa pazzesca, ma non ci dovrebbero essere i cani all'interno del Ministero, non si può. Assolutamente sì, non è previsto, non c'è nessuna norma contraria, tutt'altro, anzi. Capito Parenzo? Ma quindi lo porto, non è nel Ministero, però. È nella mia stanza. La mia stanza è una stanza politico istituzionale. Sapete che anche giuridicamente vabbè, ma è uguale, è la stanza su di un parlamentare. Vabbè, ma chi se ne frega, per me le può portare Paghi dove vuole, per carità. Appunto. Senta una cosa, ma anche perché lei fa animalista anche voi. No, ma anche lei vuole far parte dell'esercito di Silvio? Beh, certo, quei ragazzi là fanno capo a me, sono quelli che hanno dato con me, hanno dato vita al sito www.berlusconialquirinale.it. E lo so, dunque lei è l'ispiratrice dell'esercito di Silvio? No, non sono l'ispiratrice, ma forse loro si sono ispirati a me. No, secondo me ci ha messo lo zampino, ci ha messo lo zampino anche lei. No, ce l'ho messo lo zampino, ricordate, io sono la capa delle amazzoni. Comunque volevo dire che sono il 14,8% rispetto al totale degli occupati di dipendenti pubblici. Sì, adesso è troppo facile adesso. È vero, ma non c'è ma in termini, perché lo stiamo studiando, in termini di quantità non ma come no, lo come no, cioè. Senta, ma scusi un attimo, io voglio dire una cosa, ma come è venuto in mente l'altro giorno di dire che il nuovo PDL di Berlusconi potrebbe candidare anche una delle capre? Ma come mi è venuto in mente? Non ho detto questo innanzitutto, ho detto più una o cosa meno, diversa. Più no, o meno. Molto diversa. Lo dica letterale, allora, però, lo ripeta letterale. Allora la ridico letterale. Ho detto nel corso di una conferenza stampa, non riferendomi a nessuno in particolare, ho detto che il brand del PDL, visto che noi tra un po' in Trentino Alpali abbiamo... Non si sente, regionale. Non si sente, avvicini... Ho detto che il brand del PDL, visto che tra breve noi abbiamo le elezioni regionali in Trentino Alpali, cioè, mi sentite adesso? Poco, comunque. Poco, e non so cosa no, fare. Si deve mettere, adesso meglio, vada. Ecco, ho detto che il brand del PDL, grazie a Berlusconi, è talmente forte che sotto il brand del PDL viene eletto chiunque, anche una capra. Vabbè, uguale, che ha detto, la stessa cosa. No, ho detto che non c'è tra niente, né a offesa alle persone né niente, ho detto semplicemente che abbiamo un brand molto forte, per il quale, ma guardi che è così da una vita, grazie a Berlusconi siamo stati eletti. Ho capito, lei dice che grazie a Berlusconi chiunque può essere eletto, pure una capra, dai, diciamo la verità. Purtroppo sì, cioè, nel senso che grazie a lui, che lui ha beneficiato tante persone, la sostanza è questa. Ma ha portato delle capre in Parlamento, sì. In passato forse sì, soprattutto i traditori direi che sono state delle vere e proprie capre, perché non hanno capito assolutamente nulla di dove sarebbe andato Berlusconi e di quanto difficilmente lui cede rispetto alle cose. Ma i traditori, quelli che volevano andare via e poi invece sono stati ricandidati? Questo lo dite voi, ma insomma la gente non è ma sciocca. Quante capre ci sono oggi in Parlamento con Berlusconi, elette da Berlusconi? Oggi molto poche, perché per fortuna ha fatto una grande selezione, avendo ovviamente a disposizione pochi posti, visto che le prospettive non erano rose, e lui poi le ha alzate. Devo dire che oggi direi che non quasi nessuna, insomma. Non Parenzo, mi viene che fai? Ti stai trastullando? Che stai facendo? No, stavo provando a intervenire, ma mi hai detto di non parlare sopra la signora Biancofiore. Davide, ti ha interrotto. Però voglio capire questo, onorevole White Flower, ma se tutti i dipendenti della funzione pubblica portassero il loro dannato cagnolino / gattino / tartarugina di terra e di acqua dentro il proprio ufficio, si trasformerebbe in uno zoo quel posto? Beh, sarebbe Guarda, un casino però. Ribadisco il concetto. L'ufficio politico istituzionale, vabbè, ma è uguale, non è uguale, è un'altra cosa innanzitutto, punto primo, punto secondo. Allora facciamo un appello a tutti, i dipendenti pubblici: da domani, siccome l'onorevole Biancofiore ha portato il suo cane Paghi dentro l'ufficio, da domani il mio ufficio personale lo dica, tutti i dipendenti pubblici sono autorizzati a portare il loro cane e il loro animale in ufficio. Il mio è un ufficio politico, non lo è dica, un ufficio lo dica. Amministrativo, no, non lo dico perché ovviamente diventerebbe uno zoo, come dice lei, però hanno delle esigenze molto diverse i dipendenti. Ma lei è una privilegiata, lei può portare Paghi, ma come no? Sono privilegiata niente, la norma non lo vieta. Anche se un semplice dipendente pubblico volesse farlo, lo potrebbe fare perché non c'è nessuna norma contraria. Beh, scusi un attimo, allora lei sta dicendo, sta dicendo che nessuno impedisce a un dipendente pubblico di portare il cane in ufficio? Assolutamente così, tant'è che addirittura ai tempi della mia sottosegretaria Martini al Ministero della Sanità, con la delega al welfare, con la delega alla veterinaria, erano stati introdotti i cani al Ministero. Vabbè, comunque da domani fate come vi pare con i cani. Torniamo tra un attimo con l'onorevole Biancofiore dopo la pubblicità. Ma perché non la smettete di urlare? Sembrate presi, oh, vi state montando la testa, datevi una calmata. La Zanzara. Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24, in collegamento da Roma da David Parenzo, in collegamento dal Ministero della Funzione Pubblica Micaela Biancofiore, PDL, sottosegretario alla Funzione Pubblica. In queste ore si sta discutendo molto, caro Parenzo, in casa PDL, poi una cosa che in cui non si arriverà mai, perché i progetti di legge comunque, vabbè, ne abbiamo visti tanti, poi tutti sono naufragati nel nulla. Uh-huh. Però, insomma, ieri Eugenio Roccella cosa ha detto da noi? Ha detto che Bondi è un subalterno dal punto di vista culturale alla sinistra, che non esiste proporre un disegno di legge sui gay, che la sua posizione nel partito è minoritaria. Oggi Bondi ha detto no, in realtà su queste cose si decide, non ci sarà un ordine di scuderia. Lei Galan la pensa. Galan vuole addirittura presentare un disegno di legge sulle unioni omoaffettive, che è una cosa terrificante. È meglio fare un disegno di legge sui matrimoni gay, punto. Ma di che parliamo? Lei con chi sta, Biancofiore? Io sui gay ho già dato, quindi mi evito di rispondere e di aggiungere oltremodo. Nel suo partito c'è un'intervista sulla Repubblica. Lo so. Quale ho reso noto il mio pensiero. Ha parlato anche di casta. È stato travisato, nonostante fosse scritto nero su bianco, non aggiungo altro. Mi fa piacere che c'è un dibattito e che finalmente si possa esprimere il proprio pensiero, perché non sembra più di moda. Cioè non vuole più parlare di gay? Ma no, non mi interessa, non è materia che mi interessava né prima né dopo né durante, credo, come ho già detto e dichiarato e lo ribadisco, oggi lo posso fare più liberamente non avendo quella delega, che oggi il problema delle persone sia quello di cosa mettere nella pentola la sera a cena e cosa mettere a pranzo e a cena appunto sul tavolo dei propri figli. Non è questa la priorità del paese, questo governo di larghe intese nasce per dare risposte all'economia di questo paese, per la crescita, per lo sviluppo, per i cittadini, non per queste cose che non interessano se non una nicchia. Importante per chi la ritiene importante, ma che non interessa ovviamente la generalità dei cittadini. Senta, scusi, ma lei è ancora convinta che siano una casta i gay, che ogni volta che parli ti azzannano? Giuseppe, non intendo rispondere, sa perfettamente. Questa intervista doveva essere sulle amministrative, non no, su altre ma sì, ma certo, però no, voglio dire. No, vabbè, però lo sai benissimo, ho già detto a tutta la stampa nazionale che su questo argomento mi riserverò di parlare quando sarà la fine del governo. Però è vero che quando pronunci una cosa che è leggermente distante dai luoghi comuni o leggermente distante questo dal politicamente, ovviamente, ma questo mi caratterizza, il coraggio non mi fa difetto. Devo dire che una grande soddisfazione l'ho avuta, che anche dal centro-sinistra, dal mondo cattolico di centro-sinistra, insomma, mi hanno manifestato affetto e amicizia dopo quello che è accaduto. Ma hai sentito cosa ha detto Marrazzo invece oggi? L'ho seguito poco, francamente. Oggettivamente oggi c'è stata l'apertura del forum della pubblica amministrazione, che è uno dei punti, la burocrazia è uno dei punti della chiusura della procedura di infrazione contro l'Italia da parte dell'Europa. Ma secondo te la Marrazzo è stato la semplificazione sono tutti argomenti citati dal presidente Squinzi, francamente di Marrazzo preferisco se ne occupino altri. No, certo, però secondo te dal punto di vista rispetto a Berlusconi è stato trattato in maniera più morbida rispetto, cioè, tutte le sue vicissitudini, Trans, Viados, eccetera eccetera. È stato Berlusconi si è comportato da signore qual è, avvertendolo, da quello che ho capito. No, detto, sì, non ma ho seguito molto questa faccenda, che mi interessa di no, ma non stavo parlando poco di questo, dal punto di vista, quindi, del trattamento che è stato riservato a Berlusconi e a Marrazzo. Ci sono state differenze per come è stato trattato dai media, dall'informazione? Beh, mi pare del tutto evidente, ma questo è i cittadini. Ma perché è evidente? Scusa, perché oggettivamente Berlusconi, perché nonostante tutti gli attacchi che riceve da 20 anni a questa parte, la famosa guerra dei 20 anni, i cittadini italiani continuano a votarlo così in massa? La risposta ve l'ho data milioni di volte, siamo ormai diventati amici per le volte che presento nella vostra trasmissione. Sapete perfettamente che i cittadini italiani, che non sono scemi, hanno perfettamente capito qual è la posizione di Berlusconi e soprattutto che ci sta una persecuzione a suo carico dovuta al fatto che è, tra virgolette, un invincibile, per nostra fortuna. Per cui, per esempio, questo progetto di legge che oggi presenta Nitto Palma, sei favorevole a questo progetto di legge sulla, sul fatto che un magistrato, se è politicizzato, deve essere spostato? Beh, insomma, credo che se lo chieda qualsiasi cittadino sarebbe d'accordo, insomma, se è dimostratamente. Ma no, beh, sì, quello. Guardi, io sono succube di una, ho finito anche questi giorni sui giornali, insomma, voglio dire, un magistrato che per motivi politici, come dire, persegue una donna di 77 anni, che nella fattispecie è mia madre, con l'Alzheimer e un inizio di Parkinson, per aver messo una crocetta nel posto sbagliato in un questionario ad 80 anni, beh, insomma, credo che i cittadini siano in grado di giudicare da soli, appunto. Per cui i PM che sono, come dire, non che... è, qua non si tratta di un PM, nel mio caso, in ogni modo, farà la sua... Io credo molto in un certo tipo di magistratura, che infatti non a caso ha scagionato mia madre. C'è una magistratura politicizzata in Italia, ce n'è una parte... Ed è giusto che quando uno è provato sia sospeso, giusto? Prego? Ed è giusto che quando uno è provato, che è politicizzato, venga sospeso? Soprattutto quando uno si attacca a perseguitare, per dire, delle persone, invece di perseguitare camorristi, 'ndrangheta, soggetti pericolosi, assassini che girano per la strada, violenti, ladri, eccetera, ci si arriva ad attaccare per farsi pubblicità, come nel mio caso, una donna di 80 anni che la fattispecie è la mamma, gravemente ammalata. Beh, insomma, io credo che qualsiasi cittadino possa giudicare. Ma hanno iniziato questo procedimento perché è sua madre? Vabbè, secondo lei? Che ne so. Le dirò di più, cosa che non è andata a finire sul giornale. Le dirò di più, non è mai arrivato nessun avviso di garanzia né a mia madre né a me, che ne sarei la tutrice. Sì. Seconda cosa, è stato nascosta il suo procedimento con un articolo del codice che si rifà ai camorristi e ai soggetti delle 'ndrangheta e via discorrendo. Cioè, un articolo di legge che si utilizza per nascondere le procedure nei casi di, che si utilizza per queste persone. Le dice qualcosa? Cioè, trattata come una camorrista, lei dice? Non trattata come una camorrista, ma utilizzando dei metodi che sono tipici di una certa criminalità organizzata, che si rifà soltanto alla criminalità organizzata. Parenzo, che dici? No, dico che la signora tengo a sottolineare che la mia famiglia è incensurata da generazioni, che mio padre era un uomo di legge, che tutta la mia famiglia, ribadisco, mia madre per prima, è incensurata. Sì. Perché è una famiglia specchiata sotto tutti i punti di vista. Parenzo, che c'è? No, ma dico, al di là della sua vicenda familiare, che per carità... Ma che è semplificativa, mio caro David, è assolutamente semplificativa. Voi anche per lei, primi, se foste onesti, vi dovreste indignare di fronte a questa cosa, ma non perché mi conoscete, perché potesse essere miei amici, perché è indignante. Ma adesso non la conosco nel dettaglio, che la magistratura possa fare questo e perdere del tempo e dei soldi dei cittadini pubblici per una cosa di questo genere. Anche lei, infatti, io ho aperto 10 querele, soprattutto contro alcuni media. Parenzo, allora dimmi, che c'è? Ci dispiace. Dopodiché, lei ha detto un'inesattezza sul caso Marrazzo poco fa, visto che oggi se ne parla perché è tornato in aula a raccontare la sua versione dei fatti. Marrazzo si è dimesso ed era parte lesa in quella vicenda, a differenza di Berlusconi. Lei prima ha detto che è stato massacrato Berlusconi. Marrazzo è stato massacrato e si è dovuto dimettere, cara la mia Wildflower. Tesoro mio, sarà stato pure parte lesa, però insomma non sono in molti che vanno con l'auto di servizio a fare festini insieme ai transessuali. Non credo che Berlusconi abbia mai fatto una cosa del genere. Punto, e non c'è altro da aggiungere, anche su questo, insomma, lascerei giudicare i cittadini, che forse sono molto più, meno politically correct di voi e molto più intelligenti sul piano del punto di vista politico, sulla vostra intelligenza. Scusi un attimo, lei dice che ne ha combinate di più Marrazzo rispetto a Berlusconi. Ma questo lo dite voi, questo lo dico. No, una domanda. Nei processi in corso, no, smettetela di dire cose che non sono. No, è una domanda. Con i soldi, non con i soldi pubblici. Lo scandalo se lo si faccia con i soldi pubblici, non so se è chiaro. Ma che ha fatto con i soldi pubblici Marrazzo? Usare la macchina blu per andare a transessuali? Si è fatto portare con la macchina blu da un transessuale. Non c'è niente, assolutamente, è bellissimo. Poi anche ma da no, un punto ma di non vista, ho detto, è bellissimo. Voglio dire, come si può dire, del pubblico servizio, insomma. A parte che lui dice che di non esserci andato. Una bella macchina di servizio sotto le vie dei viados, beh, una roba meravigliosa, effettivamente, è veramente didascalico, è veramente, insegna l'educazione civica. Ma no, ma adesso, a parte che lui nega, credo, di aver usato la macchina blu, se non sbaglio. Ma ci sono le foto, le ho viste io, ma lui può negare quanto vuole. Poi voglio dire, hanno fatto vedere le foto, c'hanno le foto su tutti i giornali. Ma voglio dire, lo sappiamo, si può dire che, no? Si può dire che ne ha combinate molto più di quante ne abbia combinate Berlusconi, eppure è stato, diciamo, graziato dai media. Guardate, questo non lo dico io, perché non sono la deputata a giudicare, ho detto che i cittadini hanno tutti, come dire, tutte le peculiarità per poter, tutte le prove per poter giudicare sia l'operato di Berlusconi sia l'operato di quest'altra gente. Francamente, voglio dire, Berlusconi, se ha fatto qualcosa, e questo lo diranno i processi, che secondo me sono assolutamente fallaci, conoscendo peraltro il personaggio, se lo ha fatto, l'ha fatto dentro le mura di casa sua, punto, e con i propri mezzi, punto. Altro non c'è da aggiungere. Forse è scandaloso che si siano spesi soldi pubblici anche lì per andare a spiare nelle case del Premier, se qualora fosse, insomma, ecco. Senta un attimo, ma Letta, no? Le piace il signor Letta? Ma Letta quale? Enrico. Beh, è il mio presidente del Consiglio, appunto, che mi fa questa domanda. Per questo io lo chiedo. Cioè, voglio dire, la domanda perché è questa. Mi ha rimosso? Questo non c'entra niente, non ho nessuna credine personale. No. A parte che non mi ha rimosso, mi ha dato delle deleghe e mi ha dato delle deleghe anche. Certo, non c'è dubbio. Però ecco, la domanda è questa. È meglio Letta di alcuni esponenti del PDL, secondo lei? Ma per la verità al momento lo conosco molto poco, il presidente Letta. Lo conosce poco, non ci parla mai con Letta. Ci ho parlato il giorno del giuramento e basta, quindi francamente. Ma come mai? Non parla mai? Sta muovendo bene politicamente all'interno del governo, tutto. Non è che non posso giudicarlo. Se ci fosse non viene dalla mia scuola politica. Questa. Se ci fosse Berlusconi lì. Chiaro, Berlusconi, ci sarebbe Berlusconi. Cioè nel senso che il governo si darebbe un po' più una mossa, diciamo, no? Forse sarebbe un po' più, no? O sbaglio? Questo non lo so, non al momento Berlusconi non c'è, certamente immaginandolo. Immaginando all'opera in queste settimane sarebbe successo qualcosa, diciamo, qualcosa di più. Diciamo che quello che è successo anche solo grazie agli interventi di Berlusconi, insomma, no? Cioè il poco che ha fatto il governo l'ha fatto per merito di Berlusconi. Tutto stretto del presidente Berlusconi, non è poco quello che sta facendo il governo, altrimenti non mi onorerei di farne parte. No, certo, però sicuramente, voglio dire, è di tutto rilievo che il togliere l'IMU sulla prima casa, spostarla a settembre, poi la riforma che faremo entro il 31 agosto, è tutto grazie a Berlusconi e al Popolo della Libertà. Capito, Parenzo? Questo voglio dire, cioè, il PD che ci ha messo. Letta lo sa perfettamente. Il anzi, PD che ci ha messo. Il PD che ci ha messo dentro. Dentro sto governo. Ha messo la CIG, tanto per essere chiaro, insomma, la questione della cassa integrazione, ci ha messo tante cose, insomma. Sta mettendo la riforma della legge elettorale, che insomma questa va vista a 360 gradi, perché certamente non accetteremo diktat. È un governo di larga intesa, è un governo di coalizione. Senta, se lei avesse... No, certo, se lei... un'ultima cosa, onorevole Biancofiore, se lei avesse di fronte la Boccassini, cosa direbbe la signora Boccassini? Assolutamente niente, io non ho nessun ammittivo di acredine con la Boccassini. No, ma voi di fronte, se ce l'avesse di fronte, immagini di averla di fronte. Cosa dire? No, di fronte, buongiorno, salve, sarei educata come sono educata con tutte le persone, buongiorno. Se poi lei aprisse un discorso su Berlusconi, io gli direi la mia, come credo insomma di aver sempre fatto con chiunque. Come vi ho detto, se c'è una cosa che non paghi, mi fa difetto, mi manca Paghi, voglio vedere Paghi un'altra volta, voglio vedere Paghi. Comunque tutti i dipendenti pubblici, Parenzo, da oggi in poi. Da qua oggi in avanti, ecco ma ragazzi, con tutte le cose importanti che ci sono, ma vi attaccate a queste questioni? Sì, a me mi fa impazzire questa cosa qua. Voglio che tutti i dipendenti pubblici. Va bene, lo so che sei geloso, va bene, te lo porto lì, ve lo lascio in radio. Oh. Così, visto che non mi posso permettere una colpa dalla mattina alla sera, che la segue anche nei fine settimana, visto che io faccio avanti indietro per l'Italia, te la affido, va bene, visto va che bene. Ti piace tanto. Va bene, Giuseppe. Ciao, un bacio, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Pubblicità. Cornute che non sono out. Questi sono dei cornuti. La zanzara. Treviso non diventerà mai il satellite della faccia e martello. Bisogna vedere però, caro Gentilini, vorrei proprio venire lì fra due settimane, no? Con le bandiere rosse a sventolare la falce e il martello. Almeno simbolicamente. Federico dalla provincia di Ferrara, buonasera. Sì, buonasera, volevo fare i complimenti a tutti e due, anche a Parenzo che li danno sempre tutti addosso, anche se secondo me l'imitatore è molto bravo, quando fa grillo soprattutto. Vabbè, poi? Volevo dire, io ho uno zio che è uno sfegatato del PDL da Forza Italia, quindi sempre è stato così, gli ho fatto una domanda sabato che l'ho visto a matrimonio, e ho detto, ma quando, che giro anche a Biancofiore e a Furlan, quando Berlusconi per mille motivi non ci sarà più? Perché insomma ormai ha già una certa età, poi probabilmente vorrà andare anche in pensione, qual è il sostituto? Cioè quel partito è destinato a disfarsi completamente e nessuno del PDL mi sa mai rispondere a questa domanda, mi dicono ma lui è Maradona, finché c'è Maradona lo teniamo, però Napoli dopo è andato in Serie B, quando non c'era più Maradona, quindi volevo soltanto dire una cosa del genere. Lo so, Federico, però di questa cosa qui se ne parla da tempo, ormai non è nemmeno più un problema, nemmeno più un argomento di discussione, quando non ci sarà più Berlusconi, ma chi se ne frega? Cioè, ormai... No, ma voglio dire, ma ci sarà pure un qualcuno, dovrà emergere un leader, perché non coltivano un leader alternativo a questa persona, che sicuramente ha delle capacità, perché nessuno lo mette in dubbio, anzi. Argomento vecchio, Claudio da Roma, buonasera. Buonasera, io volevo dire che in una settimana... ho sentito 3 persone pronti alla rivolta armata, ci siamo quasi, quindi attenzione. Chi ha sentito lei, scusi? Pronto? Ho sentito 3 amici pronti a imbracciare le armi, la rivolta armata è dietro l'angolo. Ma, ma chi sono questi qua, scusi? Ma amici, si parla, si va a cena, si va a pranzo, una volta si parlava del futuro, ora si parla soltanto... della crisi e di come uscirne. La soluzione che in 3 persone mi hanno proposto è facciamo la rivoluzione armata. Vabbè, ma questi sono dei poveracci, degli imbecilli, dei cretini, ma li denunci. Dei poveri disperati, dei disgraziati. Come devo aggiungere qualcos'altro? Faccia lei, sapevatelo, come si dice. Sapevatelo. Ma sapevatelo che, Claudio, lei parla in generale di 3 persone con cui esce che sono pronte a prendere i fucili o le armi se le cose peggiorano. Ma che vuol dire? Non ma vuol dire nulla. Subito. Sapevatelo. Ma sapevatelo cosa? Niente, così si dice, la situazione è pronta per esplodere, lo dice anche lei che a settembre qualcosa cambierà. Quindi, io ho questa sensazione che più si va avanti, più le cose vanno sempre peggio. Non succederà nulla, non succederà nulla. Io lo spero, però. Vabbè. Antonio da Bari, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, tutto quanto inizia dalla barzelletta che ha detto chi vuol fare l'esercito armato di Berlusconi. Sì. Poi subito dopo c'è stata la banda, allora tanto vale, se c'è un posto per gli sbandieratori, mettere per gli sbandieratori, ma il problema non è questo. Proprio per me, per risparmiare moneta, a sto punto qua tutte le varie difese che vengono fatte ai politici con le scorte armate che ci costano tantissimo devono essere eliminate. I politici le scorte se le pagassero per conto loro, se hanno sbagliato e hanno paura di camminare per strada belli come sto camminando io adesso con il cane, loro dovrebbero pagarsi le scorte armate. Ecco da dove c'è tutto quanto, forse un po' di risparmio per tutto, tutte quelle famose 700, 1000 quante sono, auto blu, che sono incommensurabili. Antonio, non ho capito nulla io, secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare che tutti i politici, se si vogliono difendere, si mettessero le scorte armate e se ne pagassero loro, e non che ci vengano a costare a noi tantissimo, quando poi ci sono paesi qui nel meridione a malapena dove c'è il maresciallo e 2 carabinieri. Ho capito, ma le scorte, sì, ho capito Antonio, magari in qualche caso saranno inutili, ma in qualche spesso, anzi sempre, le scorte sono decise dall'autorità di pubblica sicurezza che valuta i pericoli che ci possono essere intorno a quella persona e poi prende dei provvedimenti. Magari in alcuni casi le scorte vengono tenute un po' troppo rispetto poi ai pericoli che passano, però insomma non è così semplice ridurre le scorte. Le auto blu sicuramente già hanno ridotto in parte. Antonio da Pesaro, buonasera. Buonasera Cruciani, io volevo dire solamente una cosa. Io ho votato Grillo sia alla Camera che al Senato e non me ne vergogno, e sono delusissimo e godo quello che è scritto oggi Repubblica, che hanno fatto davvero un grandissimo flop. Ma lei goda per quello che vuole, cioè se lei gode perché Grillo ha fatto flop alle elezioni amministrative. Ma è deluso, io l'ho votati, ma non si mentono nulla. Perché? Si sono dimostrati davvero degli incompetenti. Non è questo il Movimento 5 Stelle che ci aspettavamo. Perché? Perché non hanno saputo fare nulla di concreto, ci hanno dato il governissimo, non volevamo il governissimo, potevano fare un'alleanza, invece niente, si sono lavati le mani, non si assumono la responsabilità, e quindi la prossima volta io non le voterò, voterò PD come Parenzo, punto. Parenzo. Ma io intanto scusi, ma non ho votato. Vabbè, tu avresti votato PD, dai, su, è inutile. Avrei votato, l'ho detto 1000 volte, quindi non è nuovo, non solo Partito Democratico, ma voglio dire a questo, aggiungere a quello che dice sto signore, che non solo oggi bisogna godere, ma bisogna godere al cubo, perché questi qui si comportano peggio di un politico qualunque della Prima Repubblica che adesso accusano i giornali e le televisioni. Poverini, siccome non vanno in TV, allora non li hanno capiti. Così hanno detto questi, non li hanno capiti. Loro avevano fatto la cosa, la loro televisione. Non serve, tutto in rete, la cosa. Policarpo da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, dica. Due cose volevo dire, volevo rispondere a quella imbecille della Biancofiore. Una, siccome lei ha evocato tanto l'intelligenza dei cittadini, vorrei fargli notare quanto è poco intelligente lei. Uno, siccome ha detto pure che è una donna che viene dalla famiglia di legge, e dicendo che non esiste una norma che si possono portare i cani dentro l'ufficio pubblico. Allora, gli vorrei ricordare alla dottoressa Biancafiore, dato che sa tutto lei, che provi a portare il suo cagnolino dentro una farmacia, dentro un ospedale oppure dentro un cinema, e poi si accorgerà che cosa gli succede. Primo, tanto per persone intelligenti. Sempre per persone intelligenti vorrei porre questa domanda alle persone intelligenti come lei, se è meglio quando ha fatto il paragone tra Marrazzo e Berlusconi. Io non voglio giudicare, ma fa più schifo una persona di 50 anni che va a trans o con vecchio bauso che manco gli tira più, che va a mignotte e manco riesce a scopazzare perché se è contento di guardarle e toccarle? Che ne sa lei? Policarpo? Che dice? Policarpo? Daniele da Matera, buonasera. Guardi, posso dare del tu? Policarpo, faccia quello che vuole, faccia quello che vuole. Cruciani, mi sente? Fai quello che ti pare, Daniele, fai quello che ti pare. Allora, senti, mi dovessi spiegare una cosa, perché quando parli con la gente comune, sì, che magari dicono delle cazzate, ne dicono tantissime, chiami il 113, il 112, le autoambulanze, roba del genere, giusto? Vai, continua Daniele. Perché continua. Poi quando parli con la Biancofiore che dice un sacco di cazzate, non dici la stessa cosa di chiamare... Sì. Di chiamare gli infermieri. Ho risposto 40 volte, se vuoi ti mando la registrazione. No, l'ho visto. Ma... No, se vuoi ti mando la registrazione, no, ho risposto no, 40 ascoltami. Volte, se vuoi ti mando sei la registrazione così non mi rompi le scatole. Sei una persona in gambissima, ti stimo tantissimo, sì, perché ci sai fare il tuo mestiere. Mm. Spesso condivido le tue idee, però hai questo piccolo difetto, che quando sì, ti trovi davanti difetto, al potere sì, non sì, dici di chiamare il 113. Sì, va bene, d'accordo. Bene, vai oltre, Cruciani. Vai oltre, su, dai, forza. No, Daniele. No, e non devi fare, ecco, vedi, con me mi chiudi subito. Ma io non sto chiudendo nessuno, puoi parlare quanto ti pare, parla però, superiamo questo argomento. Basta, non è un argomento, non è un argomento. Prendi a cazzo in faccia quelle persone, alla stessa maniera. Va bene, d'accordo, d'accordo, accetto il tuo consiglio, accetto il tuo consiglio. No, ma non lo fai, hai paura. Non lo fai, ho paura, anche d'accordo, ho paura, tanto ti do ragione, guarda, ti do ragione, ho paura, sono un servo, sì, d'accordo, poi vai avanti. Mi dispiace, cioè, ti dispiace, benissimo. Sei molto intelligente. Va bene, poi ti dispiace. Fare, però certe volte non lo so come ti... Va bene, ti dispiace. Come ti avessi un attimino paura, non lo sì, so. Sì, ho paura. Poi ti posso fare una domanda? Sì, dimmi. A proposito del fatto che Grillo ora ha preso la mazzata. Sì. Tutti parlano del fatto che Grillo ha preso la mazzata. Secondo me non ha preso la mazzata, comunque, insomma. Ma vabbè, ha perso un po' di voti, li ha perso. Sì, ma il problema non è quello, a me non mi proprio che ha perso i voti Grillo, ma il problema è che colpa ne ha Grillo della situazione che ci sta in Italia? Il problema sono loro, non è Grillo se va o non va al potere. Mm. O sbaglio, scusami. Cioè, no. La situazione mica l'ha creato Grillo. O i grillini che possono avere i loro limiti e ne hanno. Ho capito, tantissimi. Però diciamo la verità, qui se i giornali sono liberi di fare quello che vogliono, cioè non è, qual è il problema se i giornali titolano sul fatto che Grillo ha fatto flop eccetera, ma insomma di cosa parliamo? Io ti sto dicendo il problema, ora parlano tutti quanti del fatto, tutti si sciacquano la bocca, i politici soprattutto quelli di destra sbavano proprio perché ha perso un po' di voti, sì, Grillo, sì. Il problema che sono loro che non hanno fatto mai un cazzo e continuano a non fare niente. Grillo non c'entra niente, sì, in questa continueranno situazione. Anche a non fare niente, no? Continueranno a non fare niente, però molti comuni sono amministrati da un partito che alcuni definiscono morto, come il Partito Democratico, e il PDL certo ha preso una piccola botta elettorale, ma spesso in elezione amministrativa va così. Il movimento di Grillo, ripeto, dopo i risultati delle amministrative un po' frena. Questi partiti che Grillo pensa che siano morti, in realtà sono più vivi che mai. Lo stesso Grillo pensa che sia tutta colpa degli elettori che hanno portato a questa situazione, accusa gli elettori di votare PD e PDL, cioè in parte li offende. Le cose che ha scritto oggi in parte offende gli elettori, portano al disastro il paese perché continuano a votare PD e PDL. Ma uno... perché non è così, scusami. No, ma scusa un attimo, ma non ho capito, ma uno che vota PD e PDL è un coglione che vuole portare il paese al disastro. Esattamente così, non solo è un coglione, ma non solo è un coglione, ma è anche una persona malvagia, perché se si è una persona malvagia. Io credo che Grillo penso che Grillo dovrebbe avere un po' più di rispetto per chi non vota come lui. Non è che chi vota Grillo è buono e gli altri sono tutti dei coglioni che votano PD e PDL. Per cui anche Grillo si calmi. Sentiamo Giuliano Ferrara su Alba Dorata. Comunque io mi auguro che nasca Alba Dorata in Italia. Addirittura. Perché qui si fa questo ragionamento che ha fatto anche il caro Geremicca. Dice, che bello che c'è Vito Crimi, che meraviglia che c'è Grillo che arriva sempre tre e contiene tutti i movimenti antisistema. Però la Grecia sta andando benone, avete visto, 130% di crescita della borsa. Ecco, che la crescita della Grecia, ovviamente non è una provocazione, possa essere attribuita alla presenza di Alba Dorata, questo non credo. Borsa, torniamo subito. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La Zanzara. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Il Vangelo secondo Gentilini dice: ordine, disciplina, rispetto delle leggi. Prima noi e dopo gli altri. Lo sceriffo d'Italia numero uno sono io. Siamo qui, Roberto da Milano. Buonasera, Roberto. Buonasera, Cruciani. Allora, tema: la violenza sulle donne e l'insopportabile retorica che ci gira intorno. Sì, bravo, bravo. Allora, il tema è questo. Questo è uno dei pochi casi in cui le vittime, statisticamente, sì, hanno tollerato molto a lungo la violenza dei loro carnefici. Sì, sì, in alcuni casi è così, non sempre. Che ci chiedono, non sempre, in alcuni casi è così. Per il femminicidio. Sì. Ma come? La vittima tollera la violenza e lo Stato aggrava la pena del carnefice? Ma io non so se ci sarà questa cosa, non so su che base giuridica si possa aggravare la pena per uno che ammazza una persona. No, è sfacciatamente incostituzionale, è chiaro. Ma non lo so, ma non mi interessa nemmeno, perché sembra che uno se dice una cosa del genere sembra contro le donne. A me non me ne può fregare di meno. Chi ammazza qualcuno va condannato in base... Il problema è che, correndo dietro a questa retorica, sfuggiamo alle cose che vanno fatte veramente. Io insegno a mia figlia che al primo schiaffone, alla prima parolaccia, al primo gesto, ma certo, violento nei certo, sempre così deve essere. Deve andare di corsa, punto. No, ma è così o così. Altro che aspettare che arrivi lo Stato con l'aggravante di pena quando ormai ma l'hanno aggravante, o gli hanno dato pochi un campo. Ma la gente si riempie la bocca di minchiate, di cose, di retoriche senza senso. Le leggi già ci sono, non c'è bisogno e di nessuna aggravante. E poi ci trovano le figlie, però questo dobbiamo dirlo. No, ma è tutto patetico. Io non so nemmeno che tipo di convenzione sia stata approvata. Servirà sicuramente, per carità, va bene tutto, ma non c'è bisogno di nient'altro che applicare le leggi e soprattutto non bisogna mai subire nulla, mai subire nulla, ribellarsi al primo schiaffo che ti danno. Cioè, ma di che stiamo parlando, Roberto? Dimmi. Allora, che vuoi dire? Appunto, ho espresso questo modesto parere. Bene, ti auguro buona serata. Indubbiamente modesto, perché adesso non mi sembra che lui sia un costituzionalista che può permettersi. Oddio, è arrivato quello retorico, è arrivato quello dei luoghi comuni. Avanti, che c'è da dire oggi? Avanti. Ma quale retorico? Dico su una questione. Vabbè, ti piace quando uno dice basta vite spezzate, ma basta violenza nei confronti delle donne? Cioè, ma che vuol dire? Ma siamo d'accordo tutti? Ma che c'è bisogno del Parlamento per dire una cosa del genere? Dai, ma su. La vicinanza, ma le istituzioni devono essere vicine solo quando devi pagare quando devono riscuotere le tasse? Oppure anche in altri momenti. Sì. Non ho capito. Ma io tu che non tu sai la presenza dello Stato. Il punto è che tu non sai nemmeno di cosa stai parlando, perché non sai nulla. Cioè, perché non sai, cioè, di cosa stiamo parlando? Di che cosa? Vabbè, adesso mo stai zitto. Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto. Cioè, di cosa vuoi parlare? Spiegami. Quel solito cretino, spiegami. Che intanto mi ci richiamare. Stiamo parlando di una cosa fondamentale, cioè della ratifica che il nostro Parlamento ha fatto. Sì. A una cosa che tu ritieni essere noiosissima. Sì, inutile, noiosa, cioè tutto quello che ti pare. La Convenzione di Istanbul. Sì, la Convenzione di Istanbul, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ma per questo lo pagate voi. Ma di cosa parliamo? La Convenzione del Consiglio d'Europa su prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Ma a te ti sembra che una cosa del genere possa servire a qualcosa? Ma siamo seri. Allora, siamo seri, solo retorica. Siamo di fronte a un branco di imbecilli. No, è solo retorica, solo ed esclusivamente retorica, solo cartaccia che non serve a nulla, cartaccia che non serve a niente. Esattamente. Ma di che stiamo parlando? Nico da Salerno. Buonasera. Dica. Parenzo, prenditi lo champagnino che fai più bella figura comunque, lascia perdere. No, adesso lo prosecco. Adesso. Ah, il prosecchino, scusami, Madonna. Comunque volevo lanciare un appello a Brunetta. Caro Brunetta, la tua classe politica ha introdotto la belletta nella politica, ha introdotto la lap dance nel potere. Tu sei brutto, Brunetta, sei oces, come si dice qua. Quindi non ti lamentare, razzismo, Balotelli è un pezzo di giovane, fai schifo, sei brutto. A chi si sta rivolgendo lei, scusi Nico? A Brunetta, che si lamenta, che lo discriminano, che ma lei è un cretino, Nico, adesso sta scherzando oppure è un cretino, perché sì, secondo lei Brunetta, il fatto che lei sia un cretino, se parla così di Brunetta, ma di qualsiasi persona, non c'è dubbio, non perché è Brunetta. Cioè, No, allora vi è piaciuta la Minetti, la Biancofiore, tutte queste super fighe al potere. Ma che c'entra questo? Tu sei brutto, hai fatto diventare la bellezza un valore politico, le bocconiane. E allora, Brunetta, devi parlare per iscritto, non ti devi far inquadrare, sei brutto. La stessa cosa, no? Perché si lamenta? A parte che come fa lei a giudicare della bellezza o della bruttezza di Brunetta? No, sono loro che giudicano la bellezza come se fosse un dato di curriculum, diciamo, un plus. Bah. Quindi nel tuo caso mi sembra deboluccia la cosa, mi sembra deboluccio come argomento. Sì, un po' deboluccio. Come argomento. Mi pareva deboluccia la lamentela che lui faceva. Ma la lamentela è molto semplice, uno deve essere giudicato per quello che dice, non per il fatto che è basso, alto, c'ha le trecce bionde o c'ha il vestito bello o meno. Cioè, poi ovviamente le questioni estetiche contano, come ovvio in politica, no? Però non mi pare che abbia impedito a Brunetta di fare il suo mestiere in maniera normale, posto che Brunetta possa essere considerato brutto o si debba guardare alla sua altezza, cosa che io non guardo. Cioè, quando io vedo Brunetta, al di là delle imitazioni e di alcune ironie che ci possono essere, ci possono stare, qualsiasi, cioè anche la bassezza di Berlusconi o sui tacchi di Berlusconi si è ironizzato a lungo, no? Cioè, e nessuno ha detto mai nulla, anzi Berlusconi ha costruito una parte del suo successo anche su queste cose qui. Però è diversa la cosa, perché nei confronti di Brunetta c'è un accanimento. Cioè, le frasi dette da Dario Fo qui alla Zanzara qualche settimana fa, alla fine di aprile, non erano delle cose ironiche, erano delle cose pesanti, diciamola tutta. Sì. Ma scusami, ma lo abbiamo detto, ma sulla gobba di Andreotti, che era un difetto fisico, quanto è stato scritto, detto e ironizzato sulla gobba di Andreotti? Hai mai visto Andreotti offendersi, alzare solo un degnare solo di un no, ma è diverso, lo sai benissimo, è diverso il modo in cui si parlava della gobba di Andreotti o anche della stessa altezza di Silvio e il modo in cui si parla invece della bassezza di Brunetta. È una cosa molto diversa e tu lo sai bene, cioè è una cosa molto molto diversa. Cioè, in realtà, quando si fanno queste osservazioni su Brunetta, lo si vuole distruggere politicamente, lo si vuole distruggere umanamente e altro ancora. Questa è la realtà, cioè quando si fanno queste osservazioni su Brunetta, lo sai bene che è così, ammettilo che è così, è diverso rispetto alle tante cose che si dicono di Andreotti, no, alle tante cose che si dicono di Berlusconi. Io non scherzo sulla tesi di Brunetta perché non mi interessa, scherzo sul suo modo di porsi, quello sicuro, sul suo efficientismo, sul suo mandare a quel paese chiunque. Ti ricordo che storicamente la satira anche in Italia ha preso di mira per anni. Vabbè, ma allora o mi ascolti oppure no, cioè oppure ripeti ad minchiam le stesse cose, no, cioè ascolto, allora, ma non c'è, stai ripetendo ad minchiam le stesse cose, stai dicendo che prendere per il culo Andreotti per la gobba è la è uguale a come hanno preso per il culo Brunetta sull'altezza, certo, non è così e lo sai bene tratta. E lo sai bene che non è così, è sai bene sempre di difetto fisico, ho capito, tratta. Ma tu continui a ripetere la stessa cosa mentre sai benissimo che il modo in cui hanno attaccato e continuano ad attaccare Brunetta sull'altezza è molto diverso dal modo in cui attaccavano Berlusconi e Andreotti sulla gobba. Ma non è vero. Va bene, d'accordo. È così. Va bene, hai ragione tu. Gennaro da Napoli. Certo, il presidente del Senato, ex del Senato, sì. Spadolini, sì. Veniva preso in giro per la sua grassezza, ad esempio. Va bene. Addirittura Forattini lo rappresentava con un sai benissimo che non è la stessa cosa, perché Brunetta non si è mai lamentato di vignette o di ironie sulla sua altezza. Mai, non si è mai lamentato di questo. A me non me ne frega niente dall'atto di difendere Brunetta, non mi sta particolarmente simpatico. Però una cosa sono le vignette sulla grassezza di Forattini o sulla gobba di Andreotti, un'altra cosa sono le ironie che vengono fatte nei confronti di Brunetta. Sono due cose abissalmente diverse. Gennaro da Napoli. Pronto. Dica. Pronto. Dica. Gennaro. Niente, Paolo da Bari. Sì, buonasera. Allora, no, io veramente avevo chiamato in redazione un'oretta fa quando lei aveva chiesto all'ascoltatore che mi aveva preceduto cosa ne pensasse di Travaglio, no? Non ho capito nulla, Paolo, scusi. Dico, io non so se sono andato fuori tema, perché avevo chiamato... Ma qui non c'è da andare fuori tema o no, vuole parlare di quello di cui vuole parlare, Paolo, parli! È quello che stavo dicendo, a proposito di Travaglio, perché mi ha chiesto il mio interlocutore che mi aveva preceduto cosa ne pensasse di Travaglio. Allora ho chiamato perché volevo dire io. Cosa ne penso di Travaglio, cosa penso che sia Travaglio, lei, no? Scusi un attimo, lei ci ha messo un minuto per dire che vuole parlare di Travaglio, ma se partiva subito a parlare di Travaglio non era meglio? Vabbè, devo prima presentare il tema che? Ma mica siamo alla presentazione del tema qui, vabbè, Paolo, su. Allora, volevo dire che a mio modo di vedere Travaglio è intellettualmente disonesto, perché praticamente dà per infallibile ciò che dice un magistrato, un giudice, su chiunque, non è che... Cioè dà per scontato che ciò che dice il magistrato sia vero e ciò che dicono gli avvocati difensori sia invece un'emerita cavolata. E vabbè, quindi, se lo sappiamo questo qua, non è una novità. Ma non è una novità, diciamo che Travaglio spesso si basa per giudicare qualcuno sull'accusa e non sulla difesa. Vabbè, d'accordo, andiamo avanti. No, è che poi mi dà l'impressione, cioè io me l'immagino uno come Travaglio, mi immagino che nel caso di qualche disastro, diciamo, naturale, no? Tipo terremoti, eccetera, anziché rimboccarsi le maniche e darsi da fare ad aiutare gli altri, sia il classico tipo che si affaccerebbe alla finestra a giudicare chi sta sbagliando e chi no, insomma, ecco, tutto qua. E uno tra l'altro che... Vabbè, andiamo oltre. Stefano dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera, io volevo fare una domanda all'onorevole Biancofiore e chiedo a questo punto... La domanda non ci può essere perché, come lei sa, in questa trasmissione gli ascoltatori non fanno domande agli ospiti che non ci sono più quando intervenite voi. Va bene, era soltanto per verificare se potevo portare, avendo uno stipendio modesto, sia il bambino che la mia zia molto anziana, che è per le quali ho babysitter, è una badante in ufficio con me, visto che si possono portare i cani. Era soltanto questa verifica... per capire se questa sensibilità può essere estesa anche ai parenti, oltre che agli animali. Beh, però questo è interessante, perché siccome la Biancofiore ha detto non mi posso permettere una badante, una colf, una cosa di questo tipo che stia insieme al cane, allora me la devo portare in ufficio. Molto più bassa di quella di un parlamentare o di un... Certo, lei dice a questo punto, perché non posso portare la mia vecchia zia in ufficio? Una badante costa parecchio, la babysitter anche, le posso garantire, quindi... Ma non è, io non credo a lei che lavoro fa, Stefano. Io faccio l'impiegato, però lo stipendio è lo stesso, quindi se facessi il dipendente pubblico mi troverei in questa condizione. Beh, ma volevo io credo che capire... la sua vecchia zia la può portare tranquillamente in ufficio, le fa Se il pubblico aprisse questa strada, credo che sarebbe facile portare anche nei contratti del privato... questo tipo di opportunità, sa. È più facile cavalcare un'onda dove il pubblico rappresenta buona parte dell'impiego dipendente italiano, traccia una strada, insomma. Poi la contrattazione locale nel piccolo. Ma lei perché parla di contrattazione locale? Come? Perché mi parla di contrattazione locale? Sì, nel senso che se io porto in azienda questa richiesta. Ma lei sta prendendo sul serio una cosa che era partita bene, adesso la sta trasformando in una questione giuridica da leguleie. No, cioè la vecchia azienda era in ufficio. Ho capito, Stefano, è stupenda questa cosa qui che sta dicendo. Cioè, perché se la Biancofiore porta il suo cane, io non posso portare la vecchia zia perché non ho i soldi per la governante? Traffico. La Zanzara. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco come una muchacha. Comunque è incredibile che Grillo dica che la colpa è degli elettori, che se non votano lui allora il paese va in disgrazia perché continuano a votare PD e PDL. Non le importa mucho. Roberto dalla provincia di Venezia. Pronto? Sì, dica. Buonasera. Niente, ho sentito prima il signor Simone Fullan, che è un albergatore. Si può sapere in che albergo e dove ha l'albergo per poterci magari prenotare un soggiorno? Prenotare un soggiorno? Ma mica siamo il centro prenotazione alberghiere del Veneto, no, scusi no, Roberto. No, solo sapere che albergo ha, dove ce l'ha e dopo lo cerco io per questo. Ma scusi un attimo Roberto, perché lei vuole da noi l'indirizzo dell'albergo del signor Furlan? In che zone ha l'albergo? Ma mi spiega, cosa vuole fare? L'iniziativa è ottima, quella dell'esercito. Ah, e per questo lei vuole andare a dormire nell'albergo tutto di Furlan? L'esercito poi si ritroverà nel suo albergo. Ma lei è un ex ufficiale pure lei? No. Ma è abile a maneggiare le armi? No. E perché vuole far parte dell'esercito di Silvio? Perché noi amiamo Silvio. Sì, Da ricovero. Da ricovero che? Amare Silvio. Dunque lei perché vuole andare a trovare Furlan? No, volevo solo sentire in che zona d'Italia, penso sia un Veneto fra l'altro. Sì, è un Veneto, come no, certo. No, ma in che zona d'Italia ha gli alberghi? Per capire, Che vuole fare? Vuole andare là e menarli? Che vuole fare? No, sta facendo un'opera sana. Un'opera sana. Ma lo sai chi c'è dietro questa storia dell'esercito di Silvio? Chi è il Deus Ex Machina di tutto? Sì, lo sai chi è? No, sarà quell'imprenditore lì. Chi? Furlan. Vabbè, va, fatta un'altra dormita, va. Diego Volpe Pasini, ciao Diego. Ciao caro. Ma come, non mi dire che ci sei tu dietro a questa storia dell'esercito di Silvio? No, dietro a questa cosa non c'è nessuno, se non un sacco di gente, Simone Furlan, che ha deciso di iniziare questa giusta avventura. Ma ci sei anche tu dietro? No, dietro cosa vuol dire? Io dietro, sei anche tu l'ideatore di questa cosa dell'esercito di Silvio? Mi sono iscritto e la condivido. Vabbè, ti sei iscritto e te la condividi, questo posso anche capirlo, ma sei uno degli ideatori di questa roba? Ho condiviso con Simone la cosa, mi sembrava una buona idea, quando me ne ha parlato ho detto secondo me fai bene. Vabbè, sei molto in gamba. Non vuoi dire che sei uno dei... No, non voglio dire una cosa, ma sono uno che partecipa senza dubbio, dei tantissimi. Ma l'idea... Ma tu sei una persona seria, Diego Volpe Pasini, ma è possibile mai che l'esercito di Silvio, ma è una cosa che fa ridere i polli, dai, su. Lo so, ma lascia che i polli ridano, tu lascia che i polli ridano. Tanto i polli ridano, ma qualcuno deve prendere quattro sberle, sarà il caso che cominciamo a dargliele. E chi sarebbero le quattro sberle? A chi le vuoi dare? Ti faccio un esempio. Non è possibile che a tre comizi su tre, dove Berlusconi va a parlare alla sua gente, intervengano qualche decina o qualche centinaio di facinorosi dei centri sociali o ma che vuoi fare, scusa, e che vorresti fare con questi facinorosi dei centri sociali, posto che siano dei facinorosi dei centri sociali? No, vorresti... sono facinorosi perché li abbiamo visti, li vabbè, che vuoi fare con questo esercito di Silvio? Che semplicemente cercare di fare in modo che il presidente Berlusconi possa fare i suoi comizi in santa pace, come è giusto che sia in un paese civile dove noi non andiamo mai a disturbare i comizi di altra gente. Vabbè, ma questo ci pensa la polizia, però no, non ci pensa la polizia, perché la polizia come sempre, deve usare il bastoncino perché non può, non perché può, invece voi come esercito di Silvio che cosa volete usare? Ah, insomma, se gli dai quattro sberle non è che, non è che cambia, cioè, molto, volete, no? Fare no, la guardia azzurra come una volta, no, c'era la ronda azzurra, azzurra, la ronda... azzurra, cioè, vogliamo difendere primo il diritto del nostro presidente a fare attività politica sul nostro, vabbè, territorio, poi... con tutta la sua dignità. Secondo, il sano e normale svolgimento delle manifestazioni, ci sono i servizi di ordine della CGIL, ma tu stai, ma tu stai dicendo, scusate, ma tu stai dicendo che la polizia non serve a un cazzo, cioè, no, nei comizi a difendere il legittimo diritto di Berlusconi di parlare non serve a un cazzo, infatti lo ha dimostrato in tre comizi su tre. Vabbè, ho capito, però stai esagerando, cioè voi volete, volete fare una sorta di come servizio d'ordine della CGIL volete fare. No, servizio d'ordine della CGIL è una cosa, noi vogliamo semplicemente dire, l'hai detto prima, l'hai detto prima, come servizio d'ordine della CGIL. La CGIL c'ha un suo servizio d'ordine, bene, il PDL non ce l'ha. Va bene. Volete fare allora il servizio d'ordine del PDL? Dico soltanto che io credo sia giusto che le centinaia, le migliaia di persone che vogliono legittimamente difendere un nostro diritto, che è quello di avere il nostro presidente, sentirlo parlare e poterlo votare. E dunque che volete fare concretamente? Mettervi a fare un cordone intorno alle cose? Che volete fare? Andare con una divisa? Smetterla di essere insultati, di vedere le nostre bandiere bruciate, di venire presi a sputi e insulti senza mai reagire. E come reagisce? Perché contrattaccando con i reggimenti, come fai a reagire? Ah, mani libere, no, mani aperte, quattro sberle non gliele toglie nessuno. Ma quelli vi tirano i sassi alcuni, sono pericolosi. E chi se ne frega, glieli ritiriamo. Vabbè, ma voglio dire, è ora di finirla. Vai in guerriglia urbana, ma che guerriglia urbana? È ora di finirla. È arrivato il genio. È arrivato, guarda, mancava veramente il coglione la sera. C'hai sempre quella secca lì, mortale. Sei sempre con il cervello in acqua, però, vedo. Però sei svegliato, vedi come sei svegliato dal torpore della trasmissione. Porco Giuda, porco, come sei svegliato. Vedi che c'hai il cervello in acqua e purtroppo non perdi un'occasione. Meglio avere il cervello in acqua che non averlo come te, caro mio. Non perdi l'occasione per far sentire le tue flatulenze mentali e dialettiche. Bisogna smetterla di prendere sempre insulti da tutti. Stai dicendo una stupidaggine. Esiste il diritto al fischio. Volpe. È ora di finirla. Il diritto al fischio. Esiste il diritto al fischio. No, ma il fischio va bene. Il fischio va bene, fischiamo anche noi. Esiste anche il diritto alla sberla. Quello è una violenza. Avrebbero fatto meglio dartene qualcuno in più per addrizzarti, però una sberla a mano aperta, non un pugno, un fatto violento e aggressivo, ma un calcio nel culo, una roba normale, non un atto di violenza, una semplice. Però scusami, Diego Volpe Pasini, io dico una cosa: uno fa l'esercito di Silvio e dice che il suo fondatore dice che è pacifico, l'ispiratore, perché di ispiratore si tratta. Ma non è vero, non sono ispiratore di niente, io dico quello che penso. Vabbè, d'accordo, comunque... fa bene, vabbè. È pacifico, non è mica. È pacifico, mi stai dicendo che la prima volta, ho capito, ma uno non è che di fronte ai violenti, uno che fa? Si mette là a tirare le pietre. Scappa? Allora, o ci pensa la polizia, o ci pensiamo ma da stai soli. Dicendo una cosa gravissima, che la polizia non pensa alla sicurezza di Berlusconi e dei comizi di Berlusconi. Allora, la sicurezza, non cambiare le carte in tavola. Io ero presente a tre manifestazioni su tre. Ma quello hai detto prima. Una parte, un numero ridicolo di presenti rispetto ai tanti che volevano sentire Berlusconi e sostenere la nostra parte politica, hanno cercato di impedire a Berlusconi di parlare. E la polizia era assente, ma sarà stato un caso. La polizia non ha fatto niente. Vabbè, non ha fatto. Ma che devono fare? Sparare? Che devono fare? Vabbè, ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Radio 24 è una radio che reputo molto seria. Il programma della serata è una cosa che spesso mi disgusta. Non tanto lei, il signor Paparanzo, non so come si chiama, non degno di una trasmissione come questa, che è molto professionale, molto seria, molto qualificata. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Rengatto, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.